mi sembra strano che dal 90 non tocchi palla, cara Carla, cioè dal 90 non vedi un uomo nemmeno col binocolo. Allora, sentimi bene bene. Dimmi. Io te ti ho visto per televisione. Beh, sì, allora? Io con uno come te, ma neanche... Ma con chi ce l'ha con te, però? Con me, sì, ma neanche se, me lo fai vedere. Ma ce l'hai con me o con Parenzo? Non ho capito. Con tutti e due. Insomma, l'hai visto pure Parenzo? Siete due mostri. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Senti mamma, dai, dimmi cosa ne pensi, a me piace un casino Cruciani. No, sono vergognosi, lui meno dell'altro. Ma no, ma come, Parenzo è il numero uno. Ma che Parenzo, Parenzo. In Corea a preparare i corsi accademici in lingua coreana, con il podcast della Zanzara, siamo al top. Volevo consigliare a questo ragazzo di andare ad assaggiare la carne di cane in Corea, è ottima. Oh, per carità. Cioè, ottima, no, è un'ottima esperienza, lo fai una sola volta nella vita. Per carità. Potresti andare in un mercato a nord di Seul, dove assaggiare la carne di cane. Magari ci fai anche un reportage per schifo, la zanzara. Mi fa proprio impressione. Ma com'è, dolce la carne dolce, di cane? Dolce, molto dolce, sì. Dolce, dolce, dolce. Mi fa proprio impressione e giudico dei proprio delle bestie chi ma mangia no, la carne. Ma una volta si può fare, no, dai, no, su. Mi fa ribrezzo, ma mi fa no, è come no. se mangiassi un, non dico un fratello, però insomma, dai. Allora ragazzi, la vendetta, oggi un tema serio per iniziare, la vendetta che si è consumata ieri a Vasto. Cosa era successo a luglio? A luglio c'era stato un incidente stradale, un ragazzo investe una ragazza, la ragazza muore. Un banale incidente stradale purtroppo. Un incidente stradale. Come ce ne sono tanti purtroppo. Pare sia accertata la responsabilità, certo, di questo ragazzo che ha investito la ragazza che è morta. Il fidanzato, anzi il marito della ragazza, a mesi di distanza prende una pistola, ammazza l'investitore, va sulla tomba della ragazza e lascia la pistola sulla tomba. Pazzesco. A Vasto, io sono sicuro perché capisco l'umore delle persone, credo sia pieno di gente che dice ha fatto bene. Non è possibile. Sì, sì. Per io un incidente sono stradale, per quanto drammatico. C'è stata la morte di una persona. No, siamo perfettamente d'accordo. Ma la gente non va troppo per il sottile. Le persone non vanno troppo per il sottile. Ma non c'era la volontà di uccidere questa povera ragazza, sì, ma no? Tu sei già... Sì, ma lo capisco il tuo... Non sto dicendo che ha fatto bene ad ammazzarlo, figuriamoci. Sto dicendo che... Cioè, tu sostieni che la gente sta con chi ha ucciso, sì, con la vendetta. Io sono certo che ci chiameranno stasera molte persone che dicono ha fatto bene ad ammazzarlo perché sicuramente non finiva in galera, eppure ha ammazzato una ragazza. Una cosa terribile. Eppure ha ammazzato una ragazza, l'ha investita, macchina, motorino. Cioè, ma intanto non l'ha investita apposta. Vasto. Mia moglie dice che ha fatto bene perché la giustizia non c'è e allora... Io dico che si è rovinato, povero ragazzo, perché è un bravissimo ragazzo. La tragedia è perché non è successo niente a quello lì che ha ammazzato, testimoni, rosso, si è lanciato. Allora, la tesi è molto semplice, siccome ancora non avevano condannato quel ragazzo, siccome non è mai finito in galera, perché probabilmente secondo le leggi non doveva finire in galera, allora qualcuno giustifica l'assassino vendicatore, l'angelo vendicatore, il marito della ragazza che prende la pistola, spara, ammazza, poi prende la pistola stessa e la mette sulla tomba. E la mette sulla tomba della ragazza. Beh, è una storia pazzesca, un romanzo, sembra una fiction. Un romanzo adesso, che vuol dire? No, dico, sembra una storia scritta, cioè una cosa che c'è terribile. Allora, l'avvocato dell'assassino, perché bisogna distinguere i vari ruoli, l'avvocato dell'assassino si chiama Cerella. Cerella. Dell'assassino, diciamo, è quello che ha sparato. Fabio Di Lello. L'assassino è quello. L'unico assassino accertato è questo, perché insomma si è costituito, ha messo la pistola sulla tomba, è sicuro che l'ha ammazzato. Appunto, su questo appunto, non c'è dubbio. Dice che il morto, non il morto, diciamo, la ragazza, il morto di adesso, era strafottente con la moto, cioè pigliava, è successo a luglio, da luglio ad adesso era strafottente, eccetera eccetera. Sentiamo. Era strafottente con la moto, dava fastidio al marito della ragazza, accelerava quando incontravo questo giovane, non è molto raccomandabile. Cioè, non è molto raccomandabile. Beh, insomma, non era molto raccomandabile. Ma che razza di linea difensiva è? Ma no, ma insomma, non era. Che razza di linea difensiva è? Comunque, per carità. Allora, lo zio di quello morto, invece, si chiama Alessandro De Lisa. Quello morto si chiama De Lisa di cognome. Che lo zio che a sua volta investì nell'incidente stradale. Sì, la, perché la capito? Ragazza. Allora, è stato ammazzato quotidianamente con delle campagne ad odio, perché ci sono state delle manifestazioni a Basto per chiedere su Facebook giustizia per Roberta, eccetera, eccetera. Perché il ragazzo lo ammazzavano quotidianamente con tutte queste campagne. Lui a volte mi diceva: guarda zio, fanno questo, io dicevo: ma stai sereno, perché la giustizia non è quella, non è che il primo che si sveglia fa una pubblicazione o fa un'organizzazione e fa la giustizia farà il suo corso, stai tranquillo, ne esci fuori, perché sei stata vittima pure tu, cioè alla fine. Allora, invece, l'avvocato del morto di adesso, di Italo De Lisa, del ragazzo morto, dice che la famiglia era stata oggetto di atti vandalici, c'è stata una campagna di attacchi, gli atti vandalici. La famiglia del De Lisa era stata anche oggetto di atti vandalici, era stata danneggiata l'autovettura del padre. Allora ragazzi, però adesso, al di là delle voci, al di là delle testimonianze, al di là di questo, la questione è molto semplice. Se l'assassino della ragazza fosse stato in galera, questo che penso io, se l'assassino della ragazza fosse stato in galera, cioè se fosse anche stato sottratto magari alla gogna, agli attacchi della città, magari a riflettere sui suoi errori, se li ha commessi, no? E sembra che appunto sia passato col rosso, forse si potevano evitare due tragedie in più. Un altro assassino e un altro morto ammazzato. Ma che dico, poteva immaginare una vendetta simile? Cioè, tu dici, per non quello dico che è una roba da romanzo, ma da film. Oggi, ma per gli incidenti stradali, anche quelli in cui tu passi e ammazzi una persona sotto, non vai mai in galera. Anche se tu passi sulle strisce, ti investono, l'investitore. Vabbè, questa è un'altra non questione in galera. Che attiene al codice della strada, al codice penale, non c'entra niente. È un altro tema questo qua. Chi poteva immaginare, però, che sì, qualcuno avrebbe preso la pistola e a mesi di distanza avrebbe consumato una vendetta così atroce, cioè voglio dire Trump, Feltri, è giusto discriminare in questo periodo? Feltrone dalla parte di Trump, naturalmente. Cioè, frega niente. Ma io intanto non criminalizzo la, diciamo così, la discriminazione perché è necessario farla, specialmente in periodi come questo. D'altra parte è scontato il fatto che non tutti gli islamici siano terroristi, però si dà il caso che tutti i terroristi siano islamici e questo induce alla prudenza. Vecchia teoria feltriana, eh? Vecchia teoria feltriana. A dire che un negro è negro, cioè. Ma poi me ne frega niente, mi ha invitato a parlare di cose, come me ne frega niente proprio. Vuoi andare a mangiare la baglione, me ne frega niente. Scusi, perché va a Baglioni ogni volta? Ma mangiare, ma vado dove cazzo mi pare? A Baglioni, ma cosa? Ma me ne frega niente, mi invitate a parlare. Ma si spende un sacco di soldi. Ma certamente, guadagno io tantissimi e spendo quello che mi pare per mangiare. Non me ne frega niente. Uno che è un negro, ma non sto dicendo niente. Uno che è un islamico bastardo. Ma che cosa? Ma di cosa vi scandalizzate? Ma vado via, io me ne frega niente più. Ma scusi, come va via? Vado a mangiare, adesso stanco. A Baglioni, ma sono qui a fare il giornale tutto il giorno, non mi fate parlare nella trasmissione, vado via. Ho detto che uno che è negro, come devi chiamarlo? Politicamente corretto, è negro, non è immerso nel bitume, è un negro, come lo devi dire? Le parole sono parole, un negro. Baretto? Perché Albaretto? Baretto Baglioni, si mangia benissimo, va a Milano, buono, via Sanà. È carissimo. Ma che me ne frega a me, me ne frega niente, ho guadagnato un sacco di soldi facendo il giornale, me ne frega niente. Tra Trump mi piace dal punto di vista estetico. Beh, insomma, questo lo dice sempre Vittorione? Sì. Per quanto riguarda la persona di Trump, devo dire una cosa, che dal punto di vista estetico mi piace molto, perché va in giro con delle pannocchie di Gran Turco sulla testa, il che me lo rende veramente molto simpatico. Oh, novità in casa leghista. Il sì. signor Garavaglia, conosce il signore, si chiama Garavaglia. Della Lega Nord per la fu indipendenza della Padania, come no? È stato Garavaglia, consigliere regionale in Lombardia. Esatto, sostiene che Napoli Assessore, è più pulita e funziona meglio di Roma. Napoli. Bah, Garavaglia. Sarà. No, ogni settimana è peggio. E uno si chiede com'è possibile, invece ogni settimana peggiora, ma peggiora nei servizi elementari. E Roma non funziona. Mi è capitato di andare a Napoli, Napoli surclassa Roma come pulizia, organizzazione dei servizi nel centro storico e quant'altro. Bah, sarà. Vabbè. Intanto ieri Formaggio, qui alla Zanzara, amici miei, Joe Formaggio, Hitler ha fatto anche delle cose giuste. Hitler. Ma secondo te andrebbe arrestato Formaggio? Andrebbe tolto la carica di sindaco. La carica andrebbe destituito immediatamente. Andrebbe sottoposto a quello che si chiama trattamento sanitario obbligatorio. Quindi non esageriamo. Sì, adesso, un piccolo periodo in un istituto di cura. Io conosco dove la Villa dei Tigli, c'è cioè in Veneto, ottimo per curare i malati di mente, per un piccolo periodo. E dopodiché, sai, va sanzionato dal punto di vista penale, ex legge Mancino. Cioè, portato io in tribunale, penso, destituito e sì, messo al TSO. È messo una volta che condannato non al carcere. Ma non sei uno libero. Non al carcere, condannato, ma a pulire i bagni del CARA di Mineo. Ecco, questo andrebbe fatto. Cioè, dovrebbe andare a pulire i bagni oppure dei un campo rom. No, quello è già troppo. No, anche in un campo rom, ma pulire i bagni in un centro di prima accoglienza per migranti. Quello già Formaggio dovrebbe fare. Pulire i bagni di un centro di permanenza dei migranti. Hitler una cosa giusta l'ha fatta, secondo te? Una sola, ti dico, questa è una domanda. Hitler una cosa giusta l'ha fatta, sì o no? Beh, ha tolto la disoccupazione in Germania. Poi? E ha dato da mangiare, e ha dato da mangiare al suo popolo che era la fame. Hitler in Germania è arrivato a dire che Hitler ha fatto due cose giuste. Non vorrei che nessuno si arrabbiasse, se vogliamo ricordare è un esplendente di Fratelli d'Italia questo signore, quello che tu sbaglio. Chiami Manganelli d'Italia. Sì, no, perché non vorrei che penso già che magari la Meloni è un po' arrabbiata con me. Sì. Ma voglio dire, ma perché è arrabbiata con te la Meloni? So, uno se ne fa una ragione nella vita, no? Ma perché dopo fa niente, però mi dispiace. Però voglio dire, dice che è di quel partito. Che gli dà fastidio che tu chiami, le dà fastidio che tu chiami Manganelli d'Italia. Non mi sopporta, non vuol più vedere, non risponde alla mia telefonata, se l'invito alle trasmissioni televisive non vuol venire quando ci sono io, non vuol confrontarsi, so che ha rifiutato in alcune trasmissioni televisive siccome c'ero io, so che non vuole andare. Ma perché Manganelli solo d'Italia? Solo perché chiedo a chi, a quale partito appartiene questo signore che inneggia Hitler. Ho chiesto solo questo, a chi appartiene Joe Formaggio, ti a quale rispondo partito? Io, Manganelli di quelle che tu chiami, io no? Sì. Manganelli sì, d'Italia. Ah, hai risposto tu, bene. Ma che cazzo me ne frega a me del traffico che sono in giro a piedi a cercare i Pokémon? Breda, i portoni più belli d'Italia, sicuri e installati in un giorno. Bredaportoni.com vi presenta La Zanzara. Oh ragazzi, iniziamo? Iniziamo o no? Iniziamo, certo. Apriamo. Iniziamo salutando il nostro direttore Roberto Napoletano. Ma perché? Che c'entra adesso? Ma chi se ne frega? Ma dai, su. Va salutato. Ma no, dai, Raffaele dalla provincia di Pistoia, dai. Sei veramente un leccaculo. Ma no, perché tollera questa trasmissione, tollera dai, tutte queste. Raffaele, provincia di Pistoia, vai. Sì, salve. Dimmi. Sì. Senti, voglio intervenire per quanto riguarda quel fatto di Vasto. Dimmi. Perché io dico questo. Allora, ci fosse la certezza della pena, io condanno l'assassino, chiaro. Questo che ha sparato. Vabbè. Non c'è la certezza della pena, e dunque? Quindi io mi sarei comportato alla stessa maniera. Cioè, tu sei sposato? Sei sposato? Io sono sposato. Mettiamo che tua moglie... No, io dico un'altra cosa. Sono sposato e ho anche una figlia. Hai una figlia, che sì. E ora sta con un ragazzino. Cioè, tua moglie muore in un incidente stradale, che fai? Cioè, una viene investita, come è successo a quella ragazza lì a Basto? Allora, no? Se è un incidente va visto come allora l'avvocato, ragazzi, qui non è che nessuno ha fascicolo allora, davanti. L'avvocato aspetta un attimo. Se questo scappa, questo non è scappato. Non è scappato. Non c'era nessuna intenzione di uccidere quella ragazza. Vabbè, tu avresti ammazzato l'autore dell'incidente o no? Cioè, non c'è la certezza della pena. Io dico questo. Io ho una figlia. E quindi si spara? Io ho una figlia di 18 anni che ora ha un ragazzino. La prima volta che me l'ha fatto conoscere, io gli ho detto subito: guarda, se te fai del male a lei, io ti strappo le palle. In galera ci vado io. Non ho capito bene, scusami Raffaele. Allora, a chi hai detto che strappi le palle? Non ho capito. Al ragazzino di mia figlia. Cioè al ragazzino che vuol dire? Al figlio? Al fidanzato? No, al ragazzino? Hanno 18 anni, quindi ragazzo. Cioè tu al fidanzato di tua figlia, che ha 18 anni, a 18 anni hai detto se fai del male a mia figlia ti strappo le palle. Strappo le palle e in galera ci vado io. Non che, ci bella, vado. Che bella persona. Io sinceramente sai che cosa avrei fatto? Che bella persona. Se io fossi stato il fidanzato di sua figlia, le avrei detto: senta, perché non va serenamente a fare in culo lei e sua figlia, per sua figlia a ruota? Perché devi minacciarlo? Un ragazzino di 18 anni. Oh, devono capire. Perché se fanno del male, come stanno facendo tanto del male, devono avere la certezza della pena. Amico, ma magari è sua figlia che rompe i coglioni al fidanzato, scusa. Magari è sua figlia che fa del male al fidanzato, che ne sai? No, io dico se lui fa del male a lei, capito? Ma che le ha detto il ragazzino? Cosa le ha risposto? Che ha risposto quello là? Il ragazzino che le ha risposto? Come battuta, che vuoi che risponda, non è che mi ha risposto. Però gli ho detto, guarda, in questi casi qui, in galera, preferisco andare io, con tutte le attenuanti, con tutte le varie. Vabbè, questa però è un'altra cosa. A parte io ti avrei risposto tranquillamente, senti, ma vattene a fanculo, te e tua figlia. Io avrei lasciato immediatamente pure la figlia, perché l'ambiente non mi sembra bellissimo. No, cioè, l'ambiente di quella famiglia non è bellissimo. L'ambiente è bellissimo. Beh, niente, bellissimo, solo, uno che mi dice se fai male a mia figlia. Ascolta, che fai di capire, occhio. Che le cose qui nel mondo stanno andando in una certa maniera che non ti permette. In che maniera vanno? Ma quello è un incidente che stradale. La giustizia privata, non ho capito. Ma è un'altra cosa, è un incidente stradale. Allora, tu non hai fiducia nella giustizia, tu dici, siccome non c'è certezza della pena, quello là ha fatto bene ad ammazzarlo. Io volevo intervenire l'altra settimana quando c'era il babbo di quella ragazza che con l'ombrello l'hanno ammazzata. Come si chiama? Sì, Doina Matei, sì. Ecco, io volevo intervenire in quel momento lì. Perché una come quella lì, ma è giusto che lei vada a giro libera così tranquillamente? Cioè tu l'avresti, tu padre deve l'avresti ammazzata, tu padre l'avresti ammazzata. Deve stare in galera. È stata in galera? Poco, ha scontato la metà della pena e ora è ancora sottoposta a una restrizione. Torna a dormire. Però io chiuderei questi. Deve fare 20 anni. Sì. Deve fare 20 anni. Questo c'ha ragione Raffaele. L'ultimo giorno di 20 anni. E mi ripeti un attimo esattamente le parole che hai detto al fidanzato 18enne, peraltro di tua figlia. Cioè se le fai proprio così. Se gli fai del male, sappi che io ti strappo le palle. Galera ci vado io. Beh, questo è buono. Come futuro suocero non è male lei da avere come suocero. Non è male. Direi che come ingresso nella famiglia questo signore, questo 18enne, non poteva ricevere messaggio più degno, messaggio migliore, diciamo. No, un benvenuto. Se fai male a mia figlia, ti strappo i coglioni. Io credo che neanche a Gomorra dicano così. Gabriele, provincia di Lucca, vai. Oh. Ciao, senti, no, ho telefonato, ho sentito di quell'affare lì di Vasto. Sì. Io te lo dico subito, sarà anche cosa. Io sono d'accordissimo che l'abbia fatto fuori. Pazzesco. Ma no, ha aspettato anche troppo, secondo me. Cioè, secondo me andava fatto. Siccome sono un codardo, forse non l'avrei fatto. Mi sono trovato in una situazione del genere e meno male che non l'ho fatto, perché volevo tanto bene a mio nipote. Che potevi fare, scusa, non ho capito. Io l'avrei fatto. In che situazione ti sei trovato? Non ho capito. Io mi sono trovato che hanno una vicina di casa, due madre e figlia, tossicodipendenti, e hanno messo sotto la mia moglie. L'hanno messa sotto, l'hanno trasportata apposta, deliberatamente. L'hanno trasportata per 20 metri, poi l'hanno scaricata a terra e sono scappato. E che si è fatta? Che si è fatto? È stata 18 giorni in coma all'ospedale e poi si è risolto perché la testa è riuscita a andare bene. E che volevi fare? Volevi ammazzare queste qua? Ma io mi ci ho pensato per degli anni di poterla. Io fra l'altro l'avevo proprio vicino casa. Cioè le volevi accoppare? Ma l'avrei accoppate benissimo. È che non ero un codardo. Non hai avuto il coraggio. Non hai avuto i coglioni, dai. Non hai avuto i coglioni. Forse non... Ma la prossima volta, la prossima volta piglia una pistola e spara così. Ma insomma, certo, se la prossima volta. Ora mio nipote ha 18 anni. Sì, io volevo tanto bene a lui, che veniva da una situazione. Sì, ma che c'entra? 4 anni, che c'entra? Ma perché? Sapevo che se mi mettevo in quella situazione lì andavo a finire in galera. Ah, ho capito. Mia moglie, quindi l'ha fermata la legge, per fortuna. Dal marito. L'ha fermata la legge, fermato dalla legge, per fortuna. Ma fermato mio nipote. Nipote, quando pensavo, cioè tu dici il pensiero del nipote, di lasciare da solo il nipote. Di lasciare sole queste due donne con un bimbo di 3 anni, e ecco, mi ha fermato quello lì, ma se io non ho avuto il coraggio, ma per me hanno fatto benissimo, quello lì ha avuto le palle, ha fatto bene, peccato che si è rovinato la vita lui, per me non mi sarei neanche riammazzato. Per me non mi sarei neanche riammazzato. Cioè, che significa non ti saresti riammazzato? Ma lui che si è riammazzato? Che no, si è no, niente, ha messo, tu ti saresti pure ammazzato, no? No, io l'avrei ammazzato questo, io pensavo che lui l'avesse ammazzato questo qui che ha causato l'incidente e poi fosse andato sulla tomba, si fosse ammazzato. No, ha lasciato la pistola lì. Cioè... Ah, vabbè, ma allora ha fatto bene, ma allora ha fatto tanto fratto, poi non viene fuori e sta tranquillo anche lui, almeno ha mandato sottoterra. Ha mandato sotto terra. Ma in che paese viviamo? Ma dov'è la civiltà? Ancora non è che siamo. Ma a me non frega, ma a me paese, mi importa una sega della civiltà. Ma la civiltà lui ce l'ha o no? La civiltà, ma anche l'etica di uccidere, togliere la vita a una persona. Ma l'idea di togliere la vita a un'altra persona per vendetta. Bene, per un terribile incidente stradale. Ma cosa bene? Ma me l'ha messo sotto 4 metri. Ma lei è un leone da microfono. Lei è vergognoso perché sotto... è un leone da microfono, ma un coniglio della vita, peraltro. Ma fermo un leone là, da fermo microfono. Là, Gabriele, ti richiamo però, fermo, ti richiamo. Avete rotto i coglioni, avete fatto solo un quarto d'ora di trasmissione, poi pubblicità e telegiornale. Basta, basta, basta. Scegliete la vita, scegliete un lavoro, scegliete una carriera, scegliete la famiglia. Scegliete un maxi programma radiofonico. Scegliete una frequenza, una giornata, un orario, un conduttore. Scegliete Voice Anatomy. Voice Anatomy. Ogni domenica alle 14.30 su Radio 24. Un programma di Pino Insegno. Radio 24 Day. Si è chiusa la 26esima edizione di Telefisco, il convegno annuale organizzato dal Sole 24 Ore dedicato alle novità fiscali per professionisti e contribuenti, centinaia i quesiti sottoposti agli esperti. Tra i temi, in primo piano le dichiarazioni dei redditi, ormai consolidato il 730 precompilato, ma cambiano scadenze e voci e nomi delle dichiarazioni. Come spiega Giampaolo Ranocchi, dottore commercialista, esperto del Sole 24 Ore. Le novità sono diverse. Innanzitutto va detto e va segnalato che i termini per il pagamento delle imposte quest'anno cambiano, visto che il cosiddetto Tax Day è spostato dal 16 giugno al 30 giugno, quindi ci sono 14 giorni in più in pratica per pagare le imposte, saldo 2016, acconto 2017, contributi. Resta la possibilità comunque di pagare nei 30 giorni successivi alla scadenza con la solita maggiorazione dello 0,4%, e bisogna ricordarsi che restano comunque al 16 giugno una serie di pagamenti, le imposte comunali, l'IMU, la TASI. Cosa cambia invece all'interno della dichiarazione? Quest'anno sul cosiddetto 730 precompilato ci saranno anche le spese parasanitarie, quindi parafarmacie, psicologi, ottici, spese veterinarie che in parte sono detraibili. Che il nome delle dichiarazioni cambia. Chiamavano unico, ma di unico avevano ben poco, quest'anno hanno pensato finalmente di togliere quell'unico e sono tornati alla una definizione più naturale, modelli redditi. Anna Marino, Radio 24, il Sole 24 Ore. Speciale Telefisco. In collaborazione con Vodafone. La Zanzara. Con dubbio. Cosa pensi della Zanzara, il programma che ti ho fatto sentire stamattina col giornalista? Fa schifo al cazzo, questo qua è una faccia di merda, è un coglione, è un ignorante. Boh, che ovviamente lo fa per boh, gli piace Pappardelli, questo qua. Ovviamente lo fa per rompere il cazzo, però è fastidiosissimo. Cioè, è di un'ignoranza che mi fa arrabbiare tantissimo. Gli spaccherei la faccia se potessi. Chi è sta deficiente che ha mandato questo messaggio, che ha lasciato questo messaggio? Una deficiente? No, ne è pieno questo luogo, diciamo. In che senso, scusa? No, dico, è pieno questo luogo di deficienti che lasciano messaggi, chiamano, che dicono che non tornano a casa dalla moglie perché devono finire di ascoltare la radio. Ma quello è normale, è normalissimo. Mentecatti che da quando ci ascoltano fanno la pipì nei lavandini. Diciamo che, insomma, c'è un'umanità... Andiamo avanti, dai, particolare. A Parenzo, ma vattene a fanculo. Eccone un altro. Ah, mamma mia, come mi sento meglio. Eccone un altro. C'è questa funzione anche, se vuoi, liberatoria, no? Può essere, c'è anche questa funzione liberatoria. Benissimo. Allora, la cosa più incredibile è che mi sto ritrovando Vittorione Sgarbi animalista. Sì, guarda, è un ultimo shock, uno shock che ho avuto di recente. Cioè, non so in quale trasmissione, ieri, credo, da qualche parte, si è espresso con delle frasi sugli animali che veramente, non dico che è tutto finito, perché si sa che è tutto finito per altri motivi, però lo shock di Sgarbi vicino agli animali, cioè empatico con gli animali, mi ha fatto veramente cadere i coglioni. Cioè, ho proprio come si dice, il latte alle ginocchia. Sì? Sai quando diciamo ottima il latte alle ginocchia? Certo. Esattamente. Sgarbi, sentiamo. Perché maiali, perché vacche, perché animali che saranno poi destinati a nutrirci vengono torturati in questo modo, lasciati abbandonati per giorni e giorni e giorni? Se gli uomini sono stati bloccati per 20 ore, gli animali sono da 10 o 15 giorni sotto la morsa di una neve terribile e vengono tenuti lì e nessuno li soccorre. Sono anche loro creature del Signore. È evidente che sono creature del Signore, ma che gli uomini pensano che è giusto prima di tutto salvare gli uomini. Ma gli animali vivi, gli animali che si agitano, gli animali che stanno prigionieri, qualcuno vorrà salvarli, aiutarli? Sì, però adesso, nelle grandi tragedie si pensa prima agli esseri umani e poi, dopo molto tempo, si può pensare anche agli animali. Cioè, non è che si deve intervenire per salvare gli animali. Beh, lui forse parla dei maltrattamenti. No, animali, di quelli del terremoto, gli animali del terremoto, dai, su, Vittorione. Cioè, si pensa agli esseri umani, a salvare gli esseri umani, gli animali vengono dopo, dai, su, basta con questa roba qua. Beh, gli animali spesso hanno aiutato, sì, anzi, a salvare. Assolutamente, cioè, non è ricorda che... quei cani che, appunto, sì, anche oggi... nella tragedia recente dell'albergo. Hanno... Sì, oggi uno per sentirsi bello, per sentirsi a posto con la propria coscienza, si esprime a favore degli animali. Cioè, salvare gli animali, basta dire una parolina sugli animali ed ecco che senti la, con no, la tua coscienza, scusami, la vedi, tua coscienza risplende. Quando tu vedi un cagnolino, ti senti in un canile, non ti vengono le lacrime? Comunque, quando vedi un cagnolino, ma magari tenero, tenerissimo, o la storia di questo cane che ho conosciuto ma tempo sì, fa, ma... di cui non dirò il nome, che è stato, ma è roba da bambini, ma roba da bambini. Va bene, ma non hai, ma il cuore di vedere questo cane, di questa storia che racconteremo in questi giorni alla Zanzara, ma figurati, quale storia? di questo cagnolino straordinario che ho conosciuto a Roma, che è di una mia amica, che è stato preso dal canile e veniva bastonato. Questo cagnolino veniva bastonato dai padroni precedenti. Questa persona ha preso questo cagnolino, la persona tenutaria di questo cane, allora, si chiama Manuela Conte, nella certezza, e questo cane, che oggettivamente è un rompicoglione, perché bisogna dirla tutta, l'altro giorno nella casa di questa amica Manuela Conte, e questo cane, appena mi sono avvicinato, subito ha cominciato a ringhiare, no? Perché ha paura degli umani, perché è stato menato questo cagnolino straordinario. Manuela Conte. E poi mi è stata raccontata questa storia. E allora questa storia ti sei emozionato? Vorrei, ma un po' mi ha fatto pena di questo cane che è stato bastonato per anni. Ma lì funziona e ora il nostro... ha trovato l'amore della famiglia Conte. Ma facesse un figlio questa qua. Facesse un figlio invece di prendersi cane a casa, no? Questo qua è il transfer. Fai un figlio. No, fai un figlio. Sto parlando della storia di dai, questo cagnolino straordinario. Roberto da Torino, Tiberio dai. Si chiama. Ah, il cane Tiberio. Io vorrei che si parlasse alla Zanzara del cane Tiberio. Sì, sicuro. Della storia del cane Tiberio. Roberto da Torino, dai, Roberto. Pronto, dimmi. Mi senti? Dimmi. Ciao. Senti, prima Parenzo diceva che si è stupito di quel marito che ha ammazzato il ragazzo. Certo. Si è stupito, no? Stupito. Mi la trovo una storia agghiacciante, non voglio dire cose banali, ma terribile. Guarda, io... In tutti questo tempo, quando vedevo questa gente che gli avevano ammazzato il figlio, la moglie, mi sono sempre chiesto, ma perché non vanno a prenderli? Io fossi il padre o il marito andrei subito a prenderli. Finalmente uno l'ha fatto e voi vi stupite. È un eroe, dici, un eroe questo. Con una specie io ti dico che forse per mia moglie 6 mesi sono troppi, ma se mi ammazzasse mia figlia il giorno dopo sono lì ad ammazzarlo. Cioè, non ho capito, forse per tua moglie? Forse per mia moglie aspetterei forse un po' di più. Ci rifletterei un po' di più. Qualcuno mi ha scritto, c'è in giro gente che pagherebbe oro se qualcuno gli eliminasse la consorte. Vabbè, questo però quello sì. È una battuta di black humor, va bene, figlia, black humor però. Invece la figlia? Mia figlia, io il giorno dopo sarei andato a prenderlo. Sì, ma ho capito, senza ragazzi, pietà. Però attenzione. Senza pietà. Senza pietà, d'accordo. Però io questo non accetto quelli che perdonano. Ma qui scusi, non c'è nessun perdono. Nel merito, quello che ha ucciso questa signora non lo ha fatto volontariamente, perché ovviamente, certo, è morta, quindi il risultato è uguale. Ho capito, ma un terribile, banalissimo, maledetto incidente stradale merita una pistoletta. No, banale, ma nel senso che purtroppo ne avvengono ogni giorno, non voglio dire ogni ora. Ma sono scorrosso, sono ubriachi, sono drogati. Cosa no, ma nel merito, cosa questo qui. Ma cosa gliene frega loro di una vita in più? E questo merita una pistolettata? Merita da parte mia sì, perché io non riuscirei più a vivere. Ma è ovvio, ma no, nessuno sta. Come si fa a giustificare un omicidio? Un omicidio? Non io sì, lo stai del dolore. Avresti sparato anche tu, hai detto. Scusami, poi bisogna. Io l'ho sparato subito. Ho capito, ma secondo me non hai coglioni. Secondo me non hai coglioni, dai. Non hai coglioni, dai. Tu non hai coglioni per farlo. Io non ho i coglioni di vivere. No, non ho i coglioni di vivere. Di togliere la vita scientificamente a un'altra persona. Secondo me non hai i coglioni. Lo dici? Mi ammazzano mia figlia, io lo ammazzo anche solo di botte, non solo a pistolettate, di botte lo ammazzo. Secondo me non hai coglioni per farlo, non hai coglioni. Ma questo lo dici tu. Ma questo lo dici bisogna tu. Avere i coglioni per fare una cosa del genere. Io li ho, ti ho telefonato proprio per questo, perché io i coglioni li ho. Subito. Ho capito, d'accordo. Comunque, ho detto finalmente. C'è uno da avere paura. Finalmente uno che ad l'ha ad ascoltare fatto, la trasmissione, c'è da avere paura. Adesso lo dico molto seriamente. Cioè, se fossero vere, sì. C'è da avere paura ad ascoltare in diretta l'800 24 00 24 no, questa gente. Questa gente, cioè lei e gli altri, che lasciano il numero di telefono qui alle nostre bellissime, peraltro, centraliniste. No, lasciate il numero. Quando non ci sei tu è bellissima la trasmissione. No, ho detto le centraliniste, no, io ci sono sempre purtroppo. Per ma lei. Che cazzo fai? Abbassi il telefono? Dalla capito. Vergogna, deve abbassare dalla vergogna. Luciano D'Ancona, vai, Luciano. Ciao ragazzi, io sono scioccato da due cose. La prima, se posso, è che chi vi chiama spesso parla senza neanche conoscere la situazione. Cioè, tutti non sanno che quello non si è ammazzato, non sanno che è stato una tragica certo, carambola. Bravo, non bravo, sanno nulla bravo. E parlano. Questa purtroppo è l'Italia. Tu lo sai? Che arriva tu lo sai? Avrà letto dai giornali, letto, le cronache. Come te, mi documento. Sì, no, certo, perché sì. Non è che è una cosa complicatissima. Prima di parlare mi permetto allora, di però leggere. Qui ci sono versioni ci sono anche versioni discordanti, come sai. No, perdonami. Poi ti dico la seconda cosa che mi sciocca, e poi se vuoi parliamo tutto il tempo che vuoi. La seconda cosa che mi sciocca è che nessuno sta considerando che questo ragazzo che è andato a uccidere quell'altro in verità è semplicemente uno che stava così male, così obnubilato dal dolore che non è da mettere in galera, è da curare, poveretto. Ma io sono veramente Non è da mettere in galera, adesso ha ammazzato uno e se lo mettiamo ma per carità di Dio lo metteranno in galera, ma tu devi anche capire che quello evidentemente non era in grazia di Dio quando ha fatto questa cosa, aveva un dolore così enorme, secondo me non si è neanche reso conto dell'idiozia che ha fatto. Ha tolto la vita a uno che per una tragica carambola gli ha ammazzato la moglie. Io sono marito e padre, cioè morirei dal dolore, ma prima di andare a ammazzare un altro lo posso fare, lo posso immaginare soltanto se sono fuori dalla mia testa, e se sono fuori dalla mia testa non sono in grado di capire ciò che è giusto e ciò che è sbagliato. Cioè tu dici le persone che oggi lo considerano un eroe, io farei lo stesso, finalmente uno l'ha fatto, la giustizia è troppo lenta, in Italia non c'è giustizia, sono tutti dei pazzi. No, sono tutti degli imbecilli, è diverso, non sono pazzi. Ciao pazzo Luciano. È colui il quale è fuori io ho capito. Dolore. Ciao, hai ragione. Ciao. You got it. Allora, vorrei citare un prete che si chiama Don Ivan Licinio, caro Parenzo. Don Chi è Ivan costui, Licinio. Caro? Chi è costui? Un prete il quale ha detto delle cose sul signor Salvini. Sul signor Salvini. Un prete, Salvini un uomo ha detto che è un bravo migrante africano di 25 anni, ospite a spese nostre di un centro di accoglienza per presunti profughi vicino a Napoli, ha sequestrato e violentato, in realtà poi non aveva violentato per niente, un'operatrice della struttura che lo accoglie. È stato arrestato, ma non basta. Castrazione chimica e poi espulsione. Questa deve essere la cura. In realtà poi si è scoperto che questo si era tirato fuori l'uccello, si era più o meno toccato, forse anche forse solo strusciato di fronte a questa operatrice. Insomma, il prete come ha risposto a Salvini? Come ha risposto? Se Salvini chiede la castrazione per coloro che usano un membro del corpo al fine di commettere violenza, la punizione dovrebbe essere attuata anche per chi usa un altro membro, la lingua, allo stesso scopo. Castrazione della lingua di Salvini. È un uomo di chiesa questo che fa sorridere. Salvini, fai un piacere a tutti, uomini e donne. Castrati il cervello, ma forse ce l'hai troppo piccolo. Don Ivan Licinio. Un uomo di chiesa. Vabbè ragazzi, dove andiamo? Arrivano intanto qui minacce via Twitter. Il signor Gianfranco Murace mi scrive: Parenzo, carogna, ti sto vedendo da YouTube che sei in studio. Se hai il coraggio, dici in diretta che ti ho scritto. Coniglio. Gianfranco Murace due minuti fa ha twittato questa cosa. Ma chi cazzo è questo qua? Non lo so, uno che minaccia. Ma che minaccia che? Gianfranco, t'ha detto carogna. Carogna, ti sto vedendo da YouTube. Allora, se vieni da YouTube, dov'è la cosa? Allora, sto in questo momento, ecco qua. Murace, ho alzato il dito medio in segno di saluto. Ciao Murace, ciao. Una cosa pazzesca. Dillo, Parenzo, due punti. Sì. Sciocca la zanzara. No. Fa il dito medio agli ascoltatori. Fa il dito medio agli ascoltatori. Giuseppe da Roma, dai. Murace, hai arrabbiato perché dillo dato che non mi fate più chiamare in diretta. Ma chi è questo povero demente? Giuseppe da Roma, dai. Eccoci. Dimmi. Volevo tornare all'Arabia Saudita. Dimmi. Quando parlate dell'Arabia Saudita, ma volete pensare che l'Arabia Saudita è esattamente come il Vaticano? Assolutamente, cioè, lo dico pure io. Insomma, con un po' di differenza. Il Vaticano non hanno più uno stato così grande, non hanno il petrolio, però comunque va bene. Soldi non stanno male. No, soldi non stanno male, ma non è perfetto. Come la... Ragazzi. Perfetto, ma quando qualcuno chiede di aprire una chiesa in Arabia Saudita, è come se chiedesse di aprire una moschea in Vaticano. Esattamente. Ma non è lo stesso, non c'è più il potere temporale, eccetera. Ragazzi, io ieri ha ragione nel merito, essendo una teocrazia, essendo un suolo sacro per però l'Islam. Però io ho detto una cosa ieri che ribadisco. Io mi sono rotto i coglioni dell'Arabia Saudita. Sono un paese governato da carogne, un paese governato da pezzi di merda. No, ma è giusto mettersi in No, da pezzi di merda, da persone disturbate, che possono, siccome hanno una marea di soldi, sono gli uomini tra i più ricchi del mondo, fanno qualsiasi cosa. Fanno qualsiasi cosa, trattano le donne come trattano le donne, ma comprano tutti, con i soldi comprano tutti. Bello, ma è un paese governato da carogne, lo ribadisco, delle carogne, chiaro? La zanzara fa venire pensieri sporchi. Cruciani, Parenzo, facciamo una cosa a tre, vi prego. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta... State ascoltando un programma offerto da... Perché nessuno mi ha detto che Zucchetti fa software anche per grandi aziende? La zanzara. Che fanno le persone lì al campo? Scusami, che fanno? Rubano? Ascoltami, qualcuno anche ruba. Certo. Possiamo dire che non siamo tutti innocenti e che non rubiamo. Non c'è qualcuno dubbio. Ruba un portafoglio, ma chi non sbaglia, chi non ruba? Posso pulire uffici? Vedi, gentilissima, ottimo. Prendiamola qui alla Radio 24, scusa. Quanto prendi allora? Parliamo a occhi, basta che mi offrano un lavoro con... Volentieri. Ottimo, vedi, quanto prendi allora, Sabeta? Quanto prendi allora? Quello che mi offrano. Magari 10 euro all'ora, direi, no? Basta 10... che ogni mese mi offrano 1000 euro. Te, dentro il campo, quanti ladri ci sono lì al campo? Ma un po' ci saranno, ma insomma adesso molti questo... ladri, molti ladri. E ascolta, no, questo no. No, amore. Ma che qualcuno ladri che rubano un portafoglio, però stanno in carcere. Chi sbaglia, chi paga? Ma che rubano poi? Portafoglio? No, portafogli qua a, rame. A Castelromano, ti dico la verità. Sì. Solo ragazzi di portafogli. Beh, la specializzazione del campo rom Parenzo di Castelromano. Fanno i portafogli. Beh, un loro, no? Un loro know-how, diciamo, no? Il loro know-how. Poi si è offerta questa signora di fare le pulizie a casa del direttore del Sole 24 Ore, Roberto Napoletano. Certo, certo. Da un presidente posso lavorare tranquillo. Sì, come da un presidente. Andresti, per esempio, che ne so, a fare al le pulizie. Quirinale anche, a meraviglioso. Casa, a casa del signor Napoletano, direttore del Sole 24 sì, Ore, ottimo, per esempio. Ottimo questa idea, bravissimo, bello, esatto. Conosci il signor Napoletano tu? Direttore Napoletano, Roberto. Napoletano, sì. No, no, Napoletano, il direttore del Sole 24 Ore. Ha bisogno, del di, una, di, fare delle, ha bisogno sì. di una persona per fare le pulizie a casa. Tu ecco andresti? Questo. Sì, sì. Beh, devo darti una notizia, caro Parenzo. Mi sono informato con sì? Roberto sì. Napoletano. Fate presto, fate presto. Dice che è disponibile ad accogliere. Sì, sì, sì, sì, sì. No, è disponibile a far, far lavorare. Un atto anche di generosità. No, un atto di grande generosità. Vedo già libero, vedo già libero.it. Sciocca la zanzara. Cruciani manda una rom a casa del direttore. C'è già il titolo, c'è già il titolo. Però mi sono informato, è disponibile a far lavorare no, non è vero, sì, non è vero. Qualche ora a settimana la signora Rom del campo di Castelromano. Vero. Ma sì, in un atto di grande generosità. Ma non è insomma, vero. Uno guadagna poco, c'è un napoletano. Cioè, no, beh, guadagna, adesso, guadagna. No, ma dico guadagna. Ma più di me di te guadagna. No. Che... più di me di te guadagnerà. Questo sicuramente. È giusto anche che sia così. Dunque, è disponibile, secondo quello che mi riferiscono, fonti autorevolissime. No, è disponibile, ti giuro, è disponibile a far lavorare qualche ora in un atto di grande generosità. La signora, come no? La signora Sabaeta del campo sì. di Castelromano, ma 1000 euro che al dice, mese, no, ma non lo so, 1000 euro al mese, no, magari anche 300-400. Poi, insomma, se io credo che sia tutto a posto a casa là e non ci siano problemi, diciamo, dal punto di vista dei furti, si può, che, non credo che sia questo il punto. Ci possiamo fidare di questa Sabaeta del campo di Castelromano? Ma perché no? Ma mi sembra una bravissima persona, in fondo, no? Sì, sembra, no, assolutamente, so. Sì. Fanno solo i portafogli. Sì, bastano sono lasciare... specializzati nei portafogli. Basta non lasciare il portafoglio là a disposizione, adesso, non credo che chiami i suoi bravi. Comunque, pare che ci sia la disponibilità. Ma non è vero. Come? Qualche ora a casa di Roberto Napoletano. Vabbè, Carlo da Roma, dai. Carlo. Pronto? Dimmi, dimmi. Eccomi. Dimmi, ecco, aspetta, fammi spengere la radio. Questa, no? Sì, questa è forte. Ieri sera con questa signora tanto gentile, educata, come la signora Rom, la signora Rom, la signora sì. Rom, ecco, vedi Parenzo, cioè, la moglie fa, la compagna fa la giornalista, lui fa il giornalista. Ma che cazzo c'entra, scusa? E che c'entra? Perché non assume lui? Ma chi, la Rom? No, io questa no, è una, questa ragione, ha ragione Carlo, ha ragione Carlo, ha ragione Carlo, perché non prendi la Rom a casa tua? No, ma perché non prendi la Rom a casa no, tua? A parte che Carlo. Io non ho la possibilità di fare, come dire, di assumere la gente, perché non è che perché? Posso assumere le persone. Io ho già una tata e quindi ho già una persona che collabora, che collabora. Ha ragione Carlo, ha ragione Carlo. Il mio flusso reddituale, diciamo, non mi consente di assumere anche altre persone. Non credo che sia un problema di 300-400 euro al mese. Beh, questo si faccia entrare. Gentilmente i cazzi suoi e faccia i conti a casa sua anziché fare i conti a casa mia. Tutte le sere ti fai i cazzi dell'altro, no, capito? Ma io se lei sì, come sì, si sì. Comunque io non posso permettermi di assumere persone. Ma no, perché non fai lavorare la signora Roma? Ha ragione Carlo. Perché ho già una persona che collabora con noi, che è affezionata ai bambini. Ma cioè, non devo poi giustificarmi in diretta. Poi ha visto, se lascia il portafoglio poi ridi. Non c'è credi manco te a quello che dici, buffone, buffone, non c'è credi manco te a quello che dici, capito? Fai spettacolo e basta, sei un pagliaccio. Ma quale spettacolo? Scusa, mi saluti, sei un pagliaccio. Mi saluti tutti a casa sua, così sta bene. Mi saluti tutti a casa. Mi saluti a casa sua. Ma vaffa. Mi saluti la sua signora. Ma mi saluta la sua Carlo, signora. Aspetta, richiamatemi questo stronzo, aspetta, richiamate questo stronzo un attimo. Richiamate questo stronzo. Mi scrive giustamente l'ottimo Luca Sommi, dice questo Carlo deve essere parente di Bauman. Fabio dalla provincia di Roma, vai Fabio. Ciao Giuseppe, ciao Davide. Dimmi. Dalla provincia di Verona. Niente, volevo dire, questo che è successo a Vasto, secondo me, è comunque in parte figlio di questi tempi che stiamo vivendo, dove tutti però ragazzi però adesso non mi fate questi ragionamenti. Quello che è successo a Basto è figlio dei tempi che stiamo vivendo. No, non esageriamo, nel senso, no, insomma, noi siamo alla sociologia proprio spicciola. Ma che roba è? Dai, su, figlio dell'aggressività di questi tempi. Giuseppe, ormai tutti quanti fomentano l'odio, fomentano delle situazioni. Questo ragazzo sicuramente ha vissuto una tragedia immane, così anche quella persona che ha investito la moglie. Entrambi andavano assistiti subito da qualcuno, da un psicologo. Ma andavano assistiti dallo psicologo, magari c'è stato anche un intervento da questo punto di vista. Ma non che lo vuol so, dire? Giuseppe, non lo so, però sicuramente il fatto che chiunque soffi sul fuoco fomentando l'incazzatura di questa persona che era fuori di sé, quindi invece che avere un contesto dove questo ragazzo ha ucciso tra virgolette la moglie due volte, perché questa donna sarebbe stata innamorata di lui e sicuramente non avrà piacere che questa persona passerà parte della sua vita in galera. Allora? Allora invece si ritrova con... E dunque? Vabbè, questo lo sappiamo. Dunque? Come dunque? Dunque? Dunque è stato sicuramente... Aspetta un attimo. Carlo. Ma che fai? Ma attacchi il telefono così? Sei scemo? Ma come si permette? Come mi permetto? Io non posso più sentire adesso. Ma lei è un maleducato? Sarò un maleducato. È un villano maleducato lei. Ma te sei, io sarò un villano maleducato, ma tu non sei coerente con quello villano, che dici. Villano maleducato, villano maleducato. Sei sempre il solito strunzo. Vi, eccolo strunzo, qua ancora. Scusami Carlo, ma villano, tu non, villano, tu non sei, villano. Non sei quello che diceva Adolfuccio mio riferendosi a Hitler. Sì, sì, sono io e mio fratello, io e Franco. Ah, sono in due? Sì. Ah, facciamo una retata, ottimo. Ma non è... Quanti sono? Magari ritorna, come diceva quell'altro, quell'altro l'altra sera. Che lei chiamato, ha lasciato le sue generalità, le ragazze. Ho lasciato tutto, ho perfetto, tutto, allora benissimo. Il codice fiscale, mutande sporche, no, merda. Quelle ovviamente, quello è Sava Sandir, visto pure, quel che dice. Così mi chiama a Rom, perché tanto io abito vicino, io abito a Pomezia, sì. No? Perciò sono vicino al campo. Sono più puliti loro, di lei, guardi. Scusa, sì, no, Carlo, lei c'ha la bocca talmente sporca, l'animo e la bocca talmente sporca che in confronto un campo rom e la Svizzera. Devi tirare lo sciacquone, vai dentro al cesso tu alla sera, sì. Te guardi il cesso, tiri lo sciacquone, poi lo sai che gli dici, non sono degno di te. Scusami, ma scusami bella un attimo. Questa, divertente. Ma tuo fratello dove sta adesso, tuo fratello? L'alto nazista, dov'è? Non so, dovrebbe stare. Ma che siete gemelli? Parlate uguale, due Franco. Sì, dai, siamo due camionisti. Ma non è vero, dai, non andiamo per froci, questo lo posso garantire. Ma che ne sai? Te lo dico io che non ci andiamo per froci. Questo secondo è tutto me, da secondo me lo pigli in quel posto, Te dici? No, tu. Vabbè, ma a 60 anni, scusa, a 60 anni puoi provarle tutte, qual è il problema? Appunto, tu secondo me l'hai preso in quel posto. Qual è il problema? Tu te fai un problema che non esiste. Sei andato a trans qualche volta? No, purtroppo sono di vecchio stampo, non mi piace. Non è che non mi piace, non ci ho mai provato, anche da che è come piallo un culo. Se te se lo vi una volta, lo sai qual è il problema? Non lo vi un culo, perché se poi mi piace... Che ne può sapere, capito? Proprio, è un, proprio un filosofo. Proprio diventa un problema, capito? Capito? Perciò, però quello che c'hai vicino, quel pagliaccio che c'hai vicino, è un pagliaccio, perché il direttore, il signor direttore, alecca culo! Ma scusa, capito? Carlo, ma tu, io non ho capito una cosa. A parte che tuo fratello parla, ce l'ha con nazista. Abbiamo i numeri, vero, di questo, sì. Tu però, sì, tutte e due. Perfetto. Dai, mio fratello l'ha dato proprio in diretta, se vuoi te lo ridò pure io. Ma è tuo fratello quello, ma siete uguali, ma che non è possibile. Famiglia disastrata, povera madre, che famiglia disastrata che ha due figli, due coglioni, no, mamma mia. Guarda la tua, mamma guarda, mia, ragazzi. Una volta sola, è vero, certo, è vero che i coglioni vanno sempre in coppia, però. Tu hai dovuto cambiare perché la prima si è stufata, la seconda non Ma che ne sa lei? Ma che ne sa lei, cornuto? Ma che ne sa lei, cornuto, che non è altro? La prima hai trovato anche in dolce compagnia. Ma non è vero, ma non è così, non è andata così. Non è andata così. Mio. Che fai come l'amico mio che mettavano sul fuoco sulle mogli dell'altro? Del cazzo! Ma scusa un attimo, ma dove sei con il tuo gentile cane? Ma lei ha i parenti non si vergognano di lei? Eh no, perché non si possono vergognare, perché so vero, non si possono vergognare come te, non si possono vergognare. Una persona vera. Hai visto ieri l'altra sera telefonando tanto che diceva di Pupo che parlava. Pupo, sai, ha criticato i Pupo, però ci ha messo la faccia. Tu non ce la metti, tu ci metti il culo. Capisci? Tu, guarda a quei livelli dove sei arrivato. tu ci hai messo il culo. Però scusami Carlo, tu però che fai l'esaltazione di Adolfetto Hitler non va molto bene questa cosa, eh? Ma no, Adolfo è stato Adolfo. Scusa, la metropolitana, tu sei di Roma. Vabbè che vivi a c'entra Milano, Hitler con la metropolitana, no, di Roma? Fammi finire parlare. La metropolitana l'ha cominciata Hitler, Mussolini. È stato un grande stazione. Ha sbagliato a mettersi insieme con Mussolini, con Hitler. Basta, l'unico sbaglio che uno io può dare. Sennò adesso milioni e milioni di italiani, se facciamo l'uccisione degli ebrei, l'uccisione degli ebrei italiani. Che cazzo c'entra l'uccisione dell'ebrei con Mussolini? Qualche ebreo ha deportato il suo Mussolini. L'unico sbaglio che hanno fatto lì, chi era il ministro Coso, Gentiloni, che quando Palenzo è andato lì a Austi, o devono chiudere lì, o devono lasciare lì dentro. Lì dentro non devono più uscire. Allora, stava là dentro, aveva chiuso, vaffanculo, non parte più ci. Mettendo lì, era del telefono, faceva. Ma quella era la polizia polacca. Erano i polacchi quelli imbecilli. Allora, vabbè, ciao Carlo. Ciao, bevi di meno, perché se devi guidare il pool, l'autobus lì, il tir, guida, bevi di meno. Più Parenzo, meno Cruciani. La zanzara. Allora, caro Davide, torniamo sul caso di Vasto dopo l'intervento di Carlo, neonazista di Roma, a meno da quello che è neonazista, insomma, uno che fa l'esaltazione di Hitler. Direi di chiamare Alessandro De Lisa, che è un consigliere comunale a Vasto e anche lo zio del ragazzo Italo ucciso dal panettiere, insomma, dal marito di quella investita e morta. Alessandro De Lisa. Pronto? Sì. Signor De Lisa, buonasera. Sì. Pronto, buonasera. Mi chiamo Cruciani, chiamo da Radio 24, salve. Sì. La disturbo? Per cosa? Lo so che è un momento complicato, però ho letto alcune sue dichiarazioni sulla vicenda di Vasto, sulla vicenda di suo nipote. Volevo chiederle qualcosa sull'atteggiamento che ha avuto la città, soprattutto dopo quello che è successo. Lei pensa che l'omicidio che si è consumato sia il frutto di una campagna di odio nei confronti di suo nipote? Vabbè, è una campagna di odio, sicuramente è una campagna pesante, una campagna di odio, nel senso che invece di, diciamo, di aiutare i ragazzi che hanno avuto una disgrazia, insomma, è creato soltanto, e quindi andava aiutato anche il marito, l'attuale omicida, il marito della Roberta. Andava creato un clima positivo, un clima di raccordo, di disponibilità, di perdono, ma non perdono, perché non è che lui ha fatto qualcosa di che. Purtroppo l'incidente stradale capita a tutti quanti, è successo un incidente stradale. Beh, l'incidente stradale pare che fosse passato col rosso, a meno da quello che è stato accertato, passato col rosso a velocità elevata, sembra. Ma chi lo dice questo? Allora, sulla macchina era montata una scatola nera che ha rilevato la velocità al momento dell'urto di 54 km orari. Al momento dell'urto, un secondo dall'urto 52 km orari. Al momento dell'urto siamo su 52 km orari. Per cui non stiamo parlando di una velocità eccessiva. Stiamo parlando dei limiti del centro urbano, che sono 50 km orari. Sì. E diciamo l'attraversamento, lui si era messo sulla corsia di destra per girare a destra, sulla corsia quindi del verde. Purtroppo è un incrocio molto pericoloso quello lì, come è fatto. Cioè non passava col rosso. Io sto leggendo lui si è messo sulla corsia di destra per svoltare a destra. Quello praticamente è un semaforo che da dove proveniva lui aveva tre corsie. Sì. Sinistra, centro e destra. Sì. Lui si è messo sulla corsia di destra. Dopodiché doveva girare per andare in banca a ritirare dei soldi. Sì, Quando è arrivato, stava attraversando, prima è arrivato all'incrocio, ha visto la moto che per effetto di come è fatto l'incrocio deve per forza resezionare l'attraversamento invadendo la corsia, ha visto le luci, ha visto la moto, ha cercato di evitare e quindi ha fatto la manovra di emergenza verso sinistra e quindi è andato dritto, ma perché ha evitato la moto? Cioè, ma secondo lei non è accelerato dopo, perché lui come aveva evitato la moto, la manovra ha cercato di evitare. Ma secondo lei non ha avuto nessuna responsabilità in questa vicenda? Non ha avuto responsabilità, la responsabilità è un incidente stradale che può succedere a chiunque, come sono successi tanti. succedono. Ma però poi scusi, ha soccorso o no? Certo. Sì, però io leggo, io leggo l'avvocato della persona, adesso dell'assassino, diciamo, della persona che ha ucciso suo nipote, che dice: il capo di imputazione a carico dell'uomo è omicidio stradale aggravato dalla violazione delle norme sulla circolazione stradale relativa all'eccessiva velocità e al mancato rispetto. No, non è vero questo. Non è vero. Sta dicendo delle falsità l'avvocato. No, la falsità non è quello, il capo di imputazione. L'aggravante della velocità non ci sta. Allora, però dice l'avvocato che passava col semaforo rosso. Questo non dice. Passava col semaforo rosso. Là dice praticamente che. Dice che passava col semaforo rosso, ma lui è una conseguenza dell'emergenza. Anche la perizia che ha fatto il perito della procura. Cioè, è passato col semaforo rosso per cercare di evitare. Certo, è una conseguenza per evitare l'urto. E dunque lei dice che l'incidente è assolutamente una fatalità. Ma perché gli incidenti fanno creare? Gli incidenti sono fatalità. Beh, no, sono fatalità. Dipende. Se uno commette delle infrazioni, degli errori, passa col rosso. Quella è una diretta conseguenza per evitare l'impatto. Io leggo, per esempio, oggi non so, è intervenuto pure il vescovo, non so chi, dicendo una giustizia più veloce avrebbe evitato questa tragedia, come se qualcuno invocasse se suo nipote fosse andato in galera o fosse stato arrestato. Ma perché doveva andare in galera? No, ma io guidava in uno stato di ebbrezza, non guidava sotto tossicodipendente, non te ne è scappato, prestato soccorso, ha chiamato il 118, ha chiamato il 113, cosa doveva fare di più? È un ragazzo che ha avuto una disgrazia di avere un incidente stradale. E dunque subito dopo che cosa è successo in città? Si è creato un clima ostile, si è creato un clima montato da chi? Ma dopo, invece di subito sono iniziate manifestazioni, chat, gruppi su Facebook che hanno fatto giustizia per Roberta. Come le giudica queste cose lei? L'atteggiamento, per esempio, della famiglia della persona morta, della ragazza morta? Ma io non giudico niente, io giudico che qua sono tutti vittime. Mm. Qua siamo tutti vittime, la disgrazia ha colpito 3 famiglie per bene della città e purtroppo paghiamo tutte le conseguenze di una disgrazia. Allora, suo nipote è stato ucciso materialmente dal fidanzato della persona che lui ha investito, ok? C'è qualche colpevole in più, secondo lei, in questa vicenda? Cioè, quando succedono queste cose è tutta la società che è colpevole, no? Vabbè, la società in che senso? Dire tutta la società è un po'... No, è certo, perché se il gruppo dei amici, i familiari non ti aiutano, i parenti, gli amici a superare il momento, è normale che magari si fermenta un po' di rancore e non si supera. Ma il vescovo ha ragione o no? Ma la giustizia credo che sia stata velocissima, non veloce. Mi sembra che 6 mesi chiudono un'indagine su un procedimento penale con delle perizie, rilievi, perizie di parte, mi sembra che altro che, secondo me, è stata rapidissima. Credo proprio di sì. Ma nessuno poteva prevedere questa cosa qua, nessuno ha immaginato che si potesse arrivare a una situazione del genere. Si poteva fare qualcosa prima, perché ho visto sulla pagina Facebook del ragazzo che ha ucciso, diciamo, suo nipote, che addirittura aveva messo delle immagini di vendetta, diciamo. Cioè la vendetta era nell'aria, questo è il punto. Che il clima sia diventato un clima un po' pesante, si capiva, perché logicamente si capiva, però mica puoi pensare a una cosa del genere. Certo. Il problema è che se uno si fa sempre manifestazione, giustizia per, ma la giustizia fa il suo corso. Cioè chi è andato a manifestare in piazza ha sbagliato, ha creato un clima di odio. No, io non ho detto che ha sbagliato, ho detto che sono cose che non aiutano la vera giustizia, ma aiutano solo queste cose qua. L'avvocato dell'assassino, della persona che ha ucciso suo nipote, sostiene che suo nipote in tutti questi mesi è stato strafottente, non ha mai chiesto scusa, addirittura passava davanti con la macchina e accelerava di fronte alla persona. Tutto, non lo so come fa a dire una cosa del genere, premesso il fatto che il ragazzo la macchina non ce l'aveva, la patente gliel'avevano ritirata, ho sentito altre dichiarazioni con la moto, con la macchina, adesso non lo so, con la moto non ce l'ha, la moto, nessuno di famiglia, quindi cioè, non capisco che in quale mezzo. È vero che non si era mai scusato? Aspettate su questo, il ragazzo c'aveva la bicicletta, andava un ragazzo di 20 anni che se ne andava con la bicicletta, amava molto andare in bicicletta, anche quando è stato freddato c'aveva la bicicletta. Per quanto riguarda le scuse, che scuse? Noi gli abbiamo mandato un messaggio di cordoglio per il dispiacere di tutto quello che era successo. Ma lui personalmente, che lei sappia, si è scusato? La famiglia. Ma che cosa si doveva scusare? Scusi. Cioè non si doveva scusare di nulla? No, lui non è che si doveva scusare. Lui, noi abbiamo espresso il nostro sentimento di tristezza, di dolore. Poi lui lei dice, non è che se uno vicini. Non è che se uno non si scusa poi viene ucciso, perché altrimenti saremmo pieni di morti, no? Cioè in teoria. Certo. Scusate, mi devo scusare che sono nato, cioè, scusate. quanti incidenti succedono, quanti ce ne stanno uno dopo l'altro. È stata una tragedia, appunto. Siamo vicini al dolore e partecipiamo al dolore. Di questo uno cosa deve dire? Non è una scusa. Ti dico solamente che loro l'abbiamo fatto anche a mezzo stampa, il comunicato per mezzo dell'avvocato, che la famiglia era vicina, sì, partecipava al dolore, soffriva. Più di questo, cioè, non è scusa questa, che cos'ha? Va bene, grazie. Arrivederci, allora. Grazie. Allora ragazzi, Nicola da Modena, avete sentito? Cioè le versioni qualche volta sono completamente diverse, cioè qui la famiglia di quello ammazzato dice che non passava col rosso, anzi è stata una carambola praticamente, non c'è nemmeno la questione dell'arroganza perché... Il tema della velocità che non me lo dice 50 eccetera, vabbè dai, Nicola. Ciao Cruciani, ciao Parenzo. Dimmi. Ciao caro, ciao. Ma io sono contento anche... perché parlo dopo lo zio, allora? Ho sentito una pacatezza incredibile. Io faccio l'agente di commercio, faccio 5.000 km al mese, vedo come si gira per strada, ho visto incidenti, questo è stato un incidente. Allora? E a tutti i leoni da tastiera, a tutti quelli che anche stasera hanno telefonato, bravo, dicendo tutte le cose, io gli dico ragazzi, ma io vi auguro che non vi capiti mai, che non vi capiti mai, perché questo succede tutti i giorni. Ragazzi, non è che poi succede tutti i giorni che una attraversa la strada col motorino, cioè passa col motorino, un altro la mette sotto con la macchina, la ammazza. Sì, ce ne sono tanti di incidenti, è chiaro. In quella città si è creato subito una specie di movimento per la giustizia a Roberta. Ma adesso sembra che sia stato pure veloce la giustizia in quei mesi, eh. Vabbè, fermo lì. La zanzara è una punizione divina. La zanzara. Sono proprietaria di case che affitto, ma col cazzo che viene il signor negrettino a farla vedere e poi non paghi affitto. Oh scemo, non entri neanche in casa mia, pussa via. Anzi, rifaccio, se viene bello figo e a proporsi come inquilino in una delle mie case, lo prendo a calci nel culo, col cazzo che ci entri, manco a vederla, altro che non pago affitto, vacca tua, va. Ragazzi, è semplice, se volete dire quanto sono sporchi neri o quanto rubano i rom o volete mandare a cagare Parenzo in diretta, 800 24 00 24. Se invece siete persone più normali, cioè pisciate nel lavandino, andate a mignotte, o volete mandare a cagare Parenzo in differita, 393 717 1701. Siamo al top. Gio Formaggio ieri sera qui alla Zanzara. La gente dice che ci vorrebbe Mussolini. Grande ammiratore di Mussolini, il signor Gio Formaggio. Minimo la metà delle persone che sento, sì, tutti quando vedono, quando leggono il giornale o guardano la televisione o sentono la radio, dicono ci vorrebbe ancora Mussolini. Giovinezza, giovinezza, primavera di bellezza, che schifo, ragazzi. Giovinezza, giovinezza, com'è che fa poi? Arrestateli tutti e due. Qualcuno ha notato, ti sei messo a cantare giovinezza insieme al signor Formaggio. Sei preso dall'esaltazione di sentire il neofascista sindaco di questo comune. Albettone, signor Albettone. Il comune di Albettone, sì, una sorta di poi piccola Repubblica Sociale Italiana. Poi ha detto anche che i rom non servono, sono un peso. E lui a cosa serve? Non c'è funzione sociale nei signori rom. Cioè servono i rom? Cioè sono utili? Dimmi a cosa. Ma non lo so, è una domanda che ti ma faccio. Ma cosa vuol dire? La risposta mia è dimmi a cosa. Cioè i rom non servono alla società, dici? Assolutamente no. Come si stanno comportando ovunque, sì, non servono assolutamente a niente, sono solo un peso per la società. Gli immigrati sono sessualmente pericolosi, Gio Formaggio. Gli immigrati sono sessualmente pericolosi. Sì. Sono sessualmente pericolosi. Sono, cioè, sessualmente sono un pericolo, un pericolo per le donne italiane. Ma vi rende, ma che cos'è questo? È un nuovo manuale del nuovo razzista? Come ha detto un mio carissimo amico, la storia mi darà ragione. Scusami a dire una roba simile. Che ha detto un tuo carissimo amico? La storia mi darà ragione. Ma chi era? Pripke? Oh, hanno risolto il giallo del ristorante cinese, eh? Le zampe erano dorso, nessun piede umano in tavola. L'ennesima sparata di formaggio. Hitler ha fatto anche delle cose giuste. È libero questo? Libero quotidiano? No. Corriere del Veneto. Ah, beh, certo. Vabbè, Mikhail da Parma, anzi no, Andrei prima, Mikhail, resta lì, fermo. Andrea da Roma, vai. Questo continua a minacciare Andrea. Via Twitter, ma vai, dimmi. Mia, Andrea da Roma, buonasera Giuseppe, buonasera. Dimmi. Buonasera, è una, è la storia di Vasco. La storia di Vasco pensavo che è un po' esagerato il marito. Sì. Ma, e penso che è una cosa che era seguita dallo Stato, tipo, che ne so, il giudice. Allora tu, no, non ho capito, scusa, non ho capito, ha fatto bene o ha fatto male il marito? Allora è esagerata. Che vuol dire esagerata? Ammazzato uno, due pizze, tre pizze andavano bene perché era provocato. È morta mia moglie per un incidente, ok? Mi passi davanti, io passo al bar, tu mi passi davanti con la moto, ma non lo sappiamo se è così. Ma non sappiamo se è così. Questo è quello che dicono, dovrà essere accertato. Ma è tutto un sentito dire, allora. Ma che? Io ti do due pizze, non ti sparo, fermo. Ma cos'è sta roba della giustizia privata, della vendetta privata? Ma che roba è? Ma in quale, ma cosa avete? Ma nella giungla, ma voi vivete nella giungla? Ma mai cosa? Hai mai avuto una piccola violenza? Ma una, cioè, guarda, ma anche dai tuoi cugini, guarda, che le ciabatte di ingiustizie grandi o piccole le abbiamo subite tutti, non mi metto io a raccontarle a parte mie, ma che di ingiustizie la provocazione deve essere dimostrata, ovviamente. Quello che ho detto prima, certo. Per carità, però questo è ha che sentito scritto, prima lo zio, ho capito, scritto, quello mi baso su quello che c'è scritto. Uno dei parenti che abbiamo sentito poco fa di questo signore di Basto, di questo ragazzo morto italo a Basto, dice che in realtà non è vero, cioè dice che non è vero, ha detto anche qualcosa in più, che non bisognava dare nessuna scusa perché era un incidente qualunque. Forse questa sarà un'affermazione un po' forte. Giuseppe, io immagino il marito, per cortesia, magari da solo, dentro al letto, che soffre, quello che l'ha ammazzato, cioè, non è una persona seguita, andava seguita. Ma che vuol dire andava seguita? Non è che ci sono gli psicologi per tutto adesso, dai. Ma da chi andava seguita? Da se stesso? Ma che vuol dire? Dallo psicologo, che vai un attimino a parlare con qualcuno. Vabbè, Mikhail Parma, ciao. I psicologi per tutti Italia ci vogliono, pieni di psicologi adesso. Mikhail Parma, vai. Oh. Mikhail, vai. Cucù. Mikhail, che sei? Romeno, che sei? Mikhail. Niente, Nicola, no, anzi no, Sair Salerno. Sair, vai. Buonasera. Che sei, muslim? Ma perché muslim? Sì, sono muslim, però non ho chiamato per dire questa cosa. Voglio dire che... Però tu essere muslim, Allora... Ma perché tu essere? È un bel nome, Sair, che significa? Sair possiamo tradurre pure come angelo. Angelo. Bello. Angelo da Salerno, Sair. Sair in arabo, Sair. Allora, dimmi. Non chiamo per difendere a nessuno e neanche non per chiamo, offendere a qualcuno. Dice sempre non chiamo. Non chiamo. Perché quei quattro asini, perché quell'asino che ha chiamato prima il nazista, non come chiamo, parlava quello? Non chiamo. Abbiamo fatto, come parla quell'italiano asino? Io non sto dicendo niente. Quell'asino che ha telefonato prima, quel nazistello camionista che ha chiamato prima. Vai, dimmi. Ah. Allora? Sì, stavo ascoltando quello che dice... Vittorio Feltri. Allora? Non solo lui, c'è anche il signor Salfini che lo dice sempre questa cosa. Però, anche il signor Sallusti segnalo io. Vabbè, allora sei io, dimmi. Sì, non solo lui, ce ne sono tanti altri che dicono la stessa cosa. Allora? Però mi viene una domanda in mente, che come mai tutti questi imbecilli, o anzi meglio dire che questi bastardi tutti sono radunati al giornale Libero. Ah, tipo, bene, la minaccia di Sair al Libero. Ma non l'ha minacciato tutti nessuno. Tutti bastardi. Beh, no. Non l'ha minacciato nessuno. Però. Sair, tutti al Libero, tutti bastardi. Sciocca la zanzara, gli islamici minacciano Libero. Ma non è vero, è un ascoltatore come tanti che ha detto una cosa. Clamoroso. Ha detto attentato a tutti i bastardi. Vogliono chiudere Libero con un attentato. No, ma nessun attentato, niente di tutto questo. Vabbè, allora Sair, perché sono tutti bastardi? Non ho capito. Allora, perché mi ricordo benissimo quando Maurizio Belpietro ha scritto I musulmani bastardi. Bastardi islamici, allora, come, libero, come dimenticare libero di quel dire titolo? Mio parere, senza offendere a nessuno. Sono bastardi dici tu. Maurizio Belpietro, poi c'è Cristiano Magdi Alan, poi c'è Vittorio Feltri. Tutti bastardi. Le persone di piccola mentalità o sono malati di cervello. Ecco. Ma tu hai detto prima sono bastardi, amico mio, ma sono dei bastardi. Vabbè, allora, ok, sostengo quello che ho detto prima. Sair, un musulmano, minaccia Libero, tutti bastardi. No, ma così ha detto. Vabbè, comunque poi quando dicono queste persone che i musulmani non sono tutti terroristi, però i terroristi sono tutti musulmani. Sì. Allora nello stesso modo posso dire i siciliani non sono tutti terroristi, tutti sono mafiosi, ma i mafiosi sono tutti siciliani. Bravo, non c'è tu dubbio. Dici una generale, allora, è una cosa. I napoletani non sono camorristi, ma i camorristi sono tutti bravo, napoletani. Bravo, esatto, vedi. Sair, i politici ladri non sono tutti politici ladri, ma sono italiani. Ma tutti i ladri sono politici. Scusami un attimo. È bravo questo Sair, cioè usa una dialettica giusta. Sair, bravo. Tu pensi che sono razzisti questi qua, i signori Belpietro, Feltri, Salvini, tutti razzisti? No, perché secondo me non sono i giornalisti. Quello che dicono, quello che scrivono, soltanto che prendono in giro la gente per creare audience, per dire per guadagnare. Vedi, dire stronzate, loro guadagnare soldi. Guadagnare la soldi non è questa qua. Allora, ma tu sei uno religioso, amico mio? Non tanto, allora, perché il motivo principale di venire qua era il lavoro, quindi maggior parte della vita passa lavorando e pensando alla famiglia. Quindi, vabbè, Sair, ciao, ti saluto, ciao. Grazie, Alberto da Roma, vai Alberto. Ciao ragazzi, dimmi. State? Sì, non c'è male, vai, vai. Oh, volevo dirvi una cosa a proposito di quel ragazzo che ha sparato a Basto. Sì. Non c'è dubbio che è vittima anche lui, ma secondo voi ci sono gli estremi per dire che quello era un omicidio colposo? Ma io non lo so, ragazzi. I tecnicismi, adesso lasciamoli perdere. Allora, quando tu uccidi un uomo e non lo fai apposta, perché non può averlo fatto apposta, ma no, è certo, un omicidio colposo. Giusto? E allora? Secondo te, quell'uomo, anziché vedere colui che ha ucciso la moglie, invece di vederla al bar, da amici, a fare aperitivo, l'avreste visto in un regime di controllo, di restrizione, di una giustizia che dicesse: vedi, tu hai ammazzato una persona in modo ma hai ucciso un cristiano. Cioè, secondo te quello, il morto doveva andare in galera? Se fosse andato in galera, secondo me, se lui non l'avesse visto al bar con amici, ma lo avesse capito, ma quello che deve fare? C'ha 20 anni, 22 anni. Ma sarà distrutto anche lui, sarà stato distrutto anche lui dal dolore di aver ucciso. Ho detto sarà stato Non è lui si deve autolimitare. No, ma scusa, quello che ha fatto l'incidente stradale, quello che ha ucciso quella persona, in questi mesi sarà stato distrutto anche lui dal dolore di aver ucciso una persona. Cioè, una cosa che ti rimane per tutta la vita, se in un incidente stradale travolgi uno e togli la vita a una persona. Come si fa a pensare? Cioè, lui dice il fatto di vederlo in giro al bar, eccetera, di avere montato, ha fatto crescere la rabbia nella testa di quello là. Quello che ha funzionato. Ho capito, ma che bisognava fare? Allora, tu devi arrivare ad una conclusione. Bisognava arrestarlo, toglierlo dalla strada, non lo so, arrestato, metterlo ai domiciliari, che cazzo ne so. Se lui vedesse, vedi, ho capito, pronto. Ma la dinamica non è chiara, la giustizia pare che sia stata veloce, ragazzi, su, dai. Ma tu comunque hai ucciso un cristiano, tu non l'hai fatto apposta, per carità di Dio. Angelo, dalla provincia di Bari, ho capito, Angelo, provincia di Bari, vai. Angelo. Ciao Giuseppe. Dimmi. Senti, quello è passato col rosso, l'ha ammazzato. Dopo che ha ammazzato la moglie di quello, gli passava da vicino col motore accelerando e se andava pure. Ma chi l'ha detto bene questo? Quel cristiano, io non ce n'ho soldi, se avrei avuto i soldi, porco Giuda, il miglior avvocato ci mettevo, al signor Di Lello, e domani mi metto la scritta, sono Di Lello, un cristiano con i coglioni sotto, va bene? Pazzesco. Aspettato, ha visto che non c'è, e se l'ha fatta lui la giustizia, ha fatto bene, perché quel pezzo da merda, ora esce il padre, ma la pelle d'oca, mio figlio! E se gli ha ammazzato la moglie di quella, ho la pelle d'oca a sentire sta roba, la pelle d'oca a sentire questi imbecilli che chiamano in diretta senza impunità, senza impunità proprio. Se, mamma mia, ascolta. A incitare ad uccidere persone. Fai schifo, fai. Fai schifo. Fai schifo, fai. Allora, tu sei uno schifoso che inciti ad uccidere. Sei un animale, sei. Anzi, gli animali sono meglio di te perché hanno più etica. Gli animali uccidono per la fame. Tu uccidi per vendetta. Gli animali uccidono per la fame. Sei peggio di un animale. Schifoso. Schifoso andresti. Andresti a... Sei uno schifoso. Vergognati di chiamare in una radio nazionale a dire pubblicamente che hanno fatto bene a uccidere una persona. Schifoso. Vergognati. Vergognati. Vergognati. Mamma mia. Fai schifo, fai. Vergognati, senza dignità sei. Fammi dire una cosa. Assassino potenziale. Sei una... Ma non ci accavriamo che sei un conduttore radiofonico. Sei soltanto uno stupido. Sei solo uno stupido, sei. Ma stai zitto, ma vergognati. Ma vergognati di dire in diretta questa roba. Schifoso. Sei una schifoso, sei. Fermoli. Aspetta, ma stai calmo, stai Angelo, non ho capito, ma perché ha fatto bene a vendicarsi? Non ho schifoso. Capito. Ha fatto Giuseppe, come ha cosa? Fatto bene? Quello gli ammazza la moglie. Eh beh, ho capito, ma che vuol dire? Non è che siamo... Ascoltami, ammazza la moglie, sì. È una disgrazia, è passato col rosso, può succedere. Fino a qua ci siamo, ma poi passa con la moto vicino, gli accelera, lo sbeffa a dire guarda che ho ammazzato tua moglie e non mi hanno fatto niente. Là ha fatto bene, Giuseppe, ha fatto bene. Vabbè, io non ce n'ho soldi, se no io ce le mettevo i soldi a su Cristiano. E se hai figli, questo Cristiano, gli devo dire dovete andare a testa alta di vostro padre, a testa alta, perché c'ha due coglioni, quando ha quella testa da cazzo da Parenzo, ogni coglione è grosso come la testa da cazzo che c'ha Parenzo. Che imbecille che lei, veramente schifoso. Oh, sei un miserabile. Telefonare in una radio, ciao, in una radio, ciao, ciao. Incitare fermi, a uccidere. Fermi. Cruciani, Parenzo, Marameo. La Zanzara. Cruciani, se per te 4-5 volte alla settimana soltanto, mi sa che stai messo proprio male, Ragazzi, che vi devo dire? Cioè, 4-5 volte a settimana secondo me è tantissimo. Vabbè, anziano ormai, Cruciani. Ma ragazzi, ma 4-5 volte a settimana? Anziano, no. Vecchio leone ormai. Ma ragazzi, ma 4-5 volte a settimana? Ma sono ritmi anziano, pazzeschi, ma sono ritmi da Rocco Siffredi, 4-5 volte a settimana. Dai, su, cioè, adesso questa ascoltatrice va bene, per carità. Sarà più giovane sicuramente e di questo sono contento, ma 4-5 volte a settimana, oh, ma sai che sia 4-5 volte a settimana? Praticamente quasi ogni giorno, ma chi fa ogni giorno? Cioè non mi dire che tu fai ogni giorno, che non ci credo, dai. Non voglio sapere adesso i tuoi ritmi sessuali, io non mi voglio intromettere, lo so che non lo dirai mai. Sai che generalmente non discuto pubblicamente davanti a 2,5 milioni di ascoltatori, ma d'accordo, di però... quel che avviene dentro, non soltanto le mie mura di casa. Dentro tue lenzuola, ma in questo caso. Particolare sotto le mie lenzuola. È un tema che non mi appassiona. D'accordo, però devi ammettere che 4-5 volte a settimana è un ritmo Quello che posso dire è che capisco, hai una vita sessuale molto intensa. No, libero, due punti, vedo già. No, quindi sciocca la tua Parenzo. Si conferma, non confesso proprio niente, anzi, tutt'altro. Comunque, c'è da dire una cosa, conosci Maria Dinolfi, sì? Marione, come no? L'imam, l'Ayatollah Dinolfi, come no? Detto c'è? Anche Adinolf, da alcuni, Adinolf. La nuova proposta del popolo della famiglia, che esiste ancora, sì. È il popolo della famiglia, ma come quale, movimento ma politico. Non esiste niente. Bloccare per legge i siti porno. Non è vero. Sì, vuole bloccare per legge, ma tu magari sarai anche d'accordo. No, io sono nella tua versione moralistica sarai anche d'accordo. Io sono per bloccare quelli pedopornografici che sono già bloccati. Ma che c'è? Spesso tutti, quelli con i bambini. Dire, cioè, quelli porno no, quelli porno no, perché capisco che è pieno di smanettoni, di gente che... Perché tu non ti sei mai fatto una sega davanti a un sito porno. Al liceo probabilmente. Cioè sito, tu non ti no, sei mai fatto una sega davanti a un sito porno, questo è sempre... È inutile che Riccardo Poli faccia il gesto, come dire, ma dai, è inutile. Ma ha ragione lui. Caro Poli, è inutile che tu faccia così. Non, ma come no, raga, comunque una modesta proposta per cioè, il popolo... Chi ha una normale attività sessuale non ha bisogno di aiutini. Ad esempio, il povero Andro Mercù, parliamo del caso di Mercù, ad esempio. Mercù sta sempre, come vedete, anche ora davanti a un computer. Cosa sta guardando secondo voi Mercuda? Ma non è vero, sta lavorando, non è vero. Ma quale lavorando? Lo vedo lì, dai, poveretto. Ma si vede anche dalla faccia. Allora, dai, una modesta distrutto, devastato da questa roba, devastato. Cioè, dalle seghe, dici? Eh? Ma devastato. Una modesta proposta per il popolo della famiglia, se andasse al governo del paese, cosa che non avverrà mai, naturalmente. Non avverrà mai. Va prodotta una blacklist di siti pornografici da bloccare e rendere inaccessibili dall'Italia. Va varata una legge ad hoc che stabilisca l'orizzonte normativo. No, ma perché? Ragazzi, dai, su. Per i danni che l'industria della pornografia produce sui nostri figli. Ora, che l'eccesso di pornografia possa produrre dei danni, questo qua è chiaro, ma sì, che si blocchino per legge i siti porno, questo mi sembra francamente una follia. Ma dai, certo. Oddio mio, pure ha chiamato il fratello di quello là, dai, Franco. No, non posso. Franco da Roma. Di quella dai, famiglia Franco, schifosa, Franco, non ne posso, avanti, una Franco, brutta famiglia. Franco, quella. Dimmi, dai, avanti. Ma che te devo dire? Ma che sei veramente il fratello? Ma sembri il coso, sì, sembri? Sì. Sembri Carlo. No, ma sembri Carlo, ma che siete gemelli? No, no, perché c'è un paio d'anni di differenza. Ma e che sei nazista perché? Pure te? Io sono peggio di lui. Peggio? Io sono peggio. Cioè peggio, sei hitleriano tu, peggio. Sei hitleriano. No, no, non siamo hitleriani, non cominciati, lascio perdere quel coglione là, quello sai che ci vorrebbe, che ci dovrei fare io metterei una cannuccia dentro un testa a Parenzo e gli succhierei il cervello. Questo per vedere stesso. Che esce fuori. Comunque secondo me non ha nessun fratello, perché la madre talmente si è vergognata del primo, che non è che ne ha fatti due, non sono gemelle, uno solo. No, l'altro no, l'ha ucciso no. Probabilmente nella culla, ha detto, oh mamma mia che disciagura. E ne ha salvato uno, che è questo. Hanno fatti due e poi hanno buttato un stampo, perché sì, ragazzi così non potevano uscire. Ma pure tu fai il camionista, pure tu fai il camionista, non ho capito. Eh sì, uguale, perché? No, che non so, mi sembra strano, ma siete avete la stessa voce, dai, non è possibile, dai, cioè è impossibile. Dai, Franco. Io devo comunque, tu sei... Io tu devo sei... conoscere anzi tu, fratelli della Dina, c'è Vitto, si chiamano, devo farei vedere che so. E che so, che so? E so, parlano uguali. Sono fascisti più di te, sono fascisti più di te. Sì, molto di più, molto. Ma tu sei quasi tutti i camionisti, quasi tutti. Ma non è vero, adesso, non è vero, non è vero. Adesso stai dicendo. Ma perché? Ma chi stai a dire? Ma il 90% sono tutti qua. Vanno in giro con la fotografia dei Mussolini sul coso. Cioè tu sei mussoliniano, tu sei mussoliniano. Sì, sì. Ci vorrebbe Mussolini in Italia oggi. Ci vorrebbe un altro ammirante darebbe tutta la sistemata. No, ma Mussolini proprio, secondo te il fascismo. Mussolini sì, è stato, vabbè, ma ammirante ha ammazzato un sacco di Mussolini. Gente, ha ammazzato un sacco. Non ha ammazzato nessuno. Tu, per esempio, tanto per lui ha fatto solo dei sbagli, come fanno tutti. Senti, come fanno tutti. Tanto per restare in tema, così per concludere questa gente di conversazione. Lo interroghi ma non fa parlare, non lo fa sentire. Ma perché quando interroghi questo poveretto? La badante, come ha detto Carlo, tu assumi la badante e potevo parlare. Ma i signori Rom, che cosa faresti con i Rom? Che faresti? Che ci fai? Fammi capire, tu che no, cosa una dimmi una cosa che faresti con i Rom, una. Niente, niente, non ci fare niente. Non c'è poi a fare niente. Ma che faresti? Li bruceresti vivi? Niente, che faresti? Sì, vabbè, se gli dai fuoco, non è che fa succedere niente, tanto è una fiammata. Mamma, capito? È una fiammata là, c'è una fiammata semplice. Io guarda, ormai a cosa servono? A cosa? Ma lei si rende conto di cosa ha detto? Ma si rende conto o no di cosa ha detto? Allora se servono a qualcosa, perché ma lei si rende conto di che cosa ha detto? Ma io non mi dà di lei perché con te ci voglio parlare. Ma a me fa schifo solo dialogare con lei, ma si rende conto di che cosa ha detto? Una fiammata. Ma lei si rende conto di quello che ha detto? Ma si rende conto o no di quello che ha detto? Una fiammata. Ma lei che umanità? Ma lei che umanità? Schifoso, che non è altro che uno schifoso. Ma che umanità lei? Che vuole bruciare vive le persone? Schifoso. Schifoso, che umanità hai, schifoso? Sei uno schifoso. Sei uno schifoso, una persona schifosa. Schifosa. E nonostante lei sia una persona schifosa, io non mi augurerei mai la sua morte, anche se la reputo una persona schifosa. Capito? Fermi tutti. Invece si augura, ma come no? Vuole bruciare vive le persone, schifoso che non è altro. Ciao Franco. Ciao, ciao. Ciao Franco, schifoso. Torniamo a Vasto, ragazzi, l'avvocato dell'assassino, in sostanza, del di Lello, quello che ha ucciso l'investitore della ragazza, della moglie uccisa, cioè morta nell'incidente stradale. Si chiama, se non sbaglio, si chiama Cerella, il mitologico Cerella. Don't you worry, I'm all right, Jack. We never had it so good. Ooh. Pronto? Sì, avvocato, buonasera. Chi parla? Avvocato, mi chiamo Cruciani, buonasera. È Parenza. Buonasera, Radio sì, 24, sì. Salve, la disturbo? Ho capito. No, due minuti, avvocato, le tolgo solo due minuti. Non stia bene. Sono rientrato adesso, sì. Certo, ci mancherebbe. Come stai innanzitutto? Un po' stanco, mi fa male il collo. Momenti difficilissimi. Avvocato. Una giornataccia, certo. Senta, io volevo chiedere qualcosa su quello che lei ha dato per certo in queste ore, cioè dire il fatto che è sicuro che il ragazzo sia passato col rosso, cioè la persona uccisa. No, quello io dico che è sicuro. C'è il processo penale, sì, e gli accertamenti sono stati fatti non dal difensore, sono stati fatti dai pubblici ministeri. Ma la famiglia del ragazzo dice che non è vero? Risulta, ma questa è una bugia. C'è il processo, se andate al tribunale, quindi alla Procura della Repubblica, è accertato. Oppure è accertato che effettivamente c'è la responsabilità piena per quanto riguarda l'evento. Ma lui l'ha fatto per evitare, Ci dicono che l'ha fatto per evitare la collisione. La collisione è accertato, c'è la responsabilità proprio. Il dottor Colagrosso, incaricato dal pubblico ministero, non da noi, che è un consulente molto bravo, ha accertato la responsabilità piena di questa persona che non ha rispettato. Quindi il segnale a quanto andava? Andava quasi a 70 km orari. Ma c'è la scatola nera in quella macchina, quindi sarà facilmente dimostrabile, no? No, ma si è dimostrato già la responsabilità. Questi vogliono dire quello che vogliono, noi ci rifacciamo. Ma sarà un dato oggettivo, però, se la scatola nera che c'è nella macchina dice che magari andavano a 52, andava a 52, ma la responsabilità c'è tutto. Senti, io mi fido non della perizia nostra, della perizia d'ufficio, cioè del consulente incaricato. Noi abbiamo sentito un terzo equivalente distante dalle parti. Noi abbiamo sentito uno dei protagonisti, che è lo zio che è consigliere comunale. Non mi interessa, questi hanno determinato anche le conseguenze successive, lascia perdere. Cioè, in che senso? Non lo voglio sentire questi soggetti. In che senso non li vuole sentire? No, non voglio sentire le persone, che i parenti, via di seguito. Perché? Che hanno fatto i parenti dopo? Ma non li voglio sentire. Io mi fido, cioè, se ne sono fregati, dice lei. Non voglio sentire costoro, io mi fido solo degli accertamenti fatti dalla Procura della Repubblica, dal consulente, come si chiama? Colagrosso, indelegato della Procura. Io mi fido solo di questo. Però i parenti dicono un'altra cosa. Possono dire anche un'altra cosa. Sì, no, ma d'accordo, però i parenti, anche se non hanno commesso niente. Però scusi, i parenti smontano radicalmente quello che lei sta dicendo. Smontano radicalmente, questo lo devono smontare in dibattimento, se sono capaci. No, ma i parenti, proprio poco fa, non ci interessa, lo zio, gli interessa lo zio o no? Sono stati la causa, con questa condotta di questi soggetti, di tutto ciò che è successo. Ma perché? Che hanno fatto? In che senso? Scusa. Ma non li voglio sentire. No, ma che hanno fatto loro? Non li voglio sentire, non voglio sentire neanche lei, capito? No, ma io non mica c'ho una paia, figuriamoci. No. Chi parla vicino a lei? Chi sta parlando? No, sono Parenzo. No, ma avvocato mio, sono Parenzo. No, ma tutto Parenzo Davide, ma ci mancherebbe altro. No, avvocato. Ma assolutamente. No, è per dire, lei che cosa hanno creato? Che clima hanno creato? No, non so niente, non voglio parlare più di nulla, posso dire soltanto questo, che noi ci siamo sempre affidati alla perizia terza. Sì. Noi la perizia nostra è ancora più rigorosa. Noi ci fidiamo soltanto della perizia disposta dal terzo. Un'altra cosa, avvocato, è vero o no che il ragazzo, quello ucciso, era un strafottente, passava davanti non posso dire niente di questo. No, ma questo l'ha già detto lei. Questo che riferiva, ho detto io, sempre la persona che adesso sta in galera. Di Lello. Lo riferiva lui. Lo riferiva, non è che io vado in mezzo alla strada. Ma si era scusato il ragazzo? No, ma questo il cliente mi ha detto che non si è scusato mai, quindi questo Cliente... non è che lo posso dire io. No, il cliente dice la parte. Il cliente dice che non si era mai scusato. Non sono mai scusato. Non c'è stata un'omissione di soccorso? C'è stata un'omissione di soccorso. No, ma è vero, non c'è neanche il capo di imputazione. No, appunto. Ma è vero che in città c'era un clima di odio nei confronti di questo ragazzo che poi è stato ucciso oggi? Non lo so, mica sto in mezzo alla strada. No, ma ho capito. Ma no, sta mezza alla strada, abbiamo capito. Ci sono state delle manifestazioni. Ma non lo so, ti dico sinceramente. Ah, manifestazione, qualche manifestazione ho sentito, però non ha contribuito questo clima della città. No. Senta, però la famiglia, torniamo un attimo lì al punto, no? Avvocato. La famiglia? La famiglia sostiene che quello è passato con il rosso, ma per evitare la collisione, questo dice lo zio. Beh, va bene, sì, questi sono politici che poi sono finiti, possono dire quello che vogliono, ognuno può fare quello. Beh, però dice la verità, non dice la verità, cioè dice che proprio è passato perché... Non voglio sentire più nessuno. No, certo. Se lei vuole parlare con me, viene allo studio e parla, sì. Perché sento una voce. No, ma sono ancora... Lei parla, c'è una voce che suggerisce. Suggerisce, sono Parenzo. Parenzo. Avvocato? Chi Parenzo? Chi sei io? David Parenzo. David Parenzo, sono Parenzo, sono io, sono Parenzo, dai. No, siamo in due, ha capito, siamo in per due, quello sente... sono Parenzo io. E va bene, ma che te devo dire, mo? No, ma nessuno suggerisce niente. Dico che a noi risulta che lui è passato con il rosso, ma per evitare la collisione. Niente, può dire pure, è passato con il rosso e salito sulla macchina per evitare l'evento. L'evento si è verificato così come risulta negli atti del processo. Ma perché si arrabbia? È andato a leggere con la perizia che è ma agli atti. Ma perché si arrabbia? Perché si arrabbia? Ma arrabbia perché sta facendo delle domande superflue. No. Ma così poi c'è la scatola nera, la scatola nera dice che andava a 50, quindi è vero. Senta, 50... avvocato, ma lei parla, si può parlare per questo omicidio? Faccio parlare con la no, un attimo, un'ultima cosa, avvocato, un'ultima cosa, poi la lascio. Pronto? Sì, salve. Pronto? Sì. L'avvocato adesso è impegnato, mi dica. No, salve, no, ma se mi passa un attimo ancora l'avvocato, un secondo. Non posso perché adesso sta parlando con un cliente che è appena entrato. No, e lei chi è, scusi? Sì, sono la collaboratrice di studio. Ho capito, ma no, devo parlare con l'avvocato, gli devo chiedere un'altra cosa. Comunque, vabbè. Ma adesso non posso passare, se vuole richiamare, vabbè, quando vuole. Ok, grazie. La ringrazio, buona giornata. Sì, pronto, segreteria di Donald Trump? Ah, è la zanzara? Vabbè, uguale. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta... State ascoltando un programma offerto da... Perché nessuno mi ha detto che Zucchetti fa software anche per grandi aziende? La zanzara. Amici, siamo al top. Pensavo che questa storia delle mutande fosse solo esibizione, ma questi occhi hanno visto cose che voi umani non potete nemmeno immaginare. Ieri sera, in una grande città del nord Italia, negli spogliatoi di una grande piscina, stimato professionista medico, dopo aver nuotato, si infila le mutande con una vistosa sgommata di merda. Beh, amici miei, è tutto davvero finito. Parenzo, chiudiamola qui. Ragazzi, adesso vi faccio sentire una cosa. Parenzo, stai attento, non ti distrarre. Sì. Non ti distrare, che siamo ancora vivi e mancano ancora un sacco di minuti della fine della trasmissione. Mi ha chiamato Yaya Palavicini, il mio amico Imam. Oggi sono è stato... tutti amici arabi. No, tutti amici islamici, no arabi, no, islamici. Non tutto, no, tutti no. Amici no, muslim. Yaya Palavicini, oggi c'è stato ieri questo importante accordo di cui parleremo, firmato al Ministero degli Interni col ministro Minniti. Dove ci sarà l'albo degli imam, la costruzione di nuove moschee. Sei pronto per candidarti, ma anche perché lo sai, soprattutto per questo motivo qua. Ti faccio sentire l'inno di Parenzo candidato a Padova. Senti. No, chi la fa? Senti. Sali Parenzo, fai sentire quando è forte la tua voce. Guida il popolo padovano come una madre e figlio. Caccia oltre il fiume il potere falso che ci spreme, sfonda il muro di Trump che ci ha reso schiavi, tutto per la libertà. Tutti leghisti fuori, senza dubbi nei ripensamenti. Padova bella e libera, guarda avanti. Tutti leghisti fuori, senza dubbi nei ripensamenti. Padova bella e libera, guarda avanti. Geni. Fottuti geni, fottuti. Una geni. No, ma la persona straordinaria. Vedete, siamo c'è l'anima buona, civile, il paese vive ancora, resiste. Per questo non siamo affondati, perché c'è una parte sana del paese che lotta, combatte. Quelli ancora, a favore dell'euro, ancora a favore dell'euro. Quelli a favore dell'euro, contro la Brexit, a favore dell'Europa, a favore dell'Europa, contro Trump. Contro Trump, certo, per un'immigrazione controllata, moderata, ma gestita, per la solidarietà, per i mediatori culturali, per la costruzione di moschee, ma con telecamere dentro le moschee, per l'albo degli imam, per la tolleranza contro la diffusione delle pistole. Questa è l'Italia civile, avanti, ce la possiamo fare. Padova, make great again. Vota Parenzo. Parenzo, sei da manicomio. Va bene, adesso ti presento, caro Parenzo, una signora. Sì, sentiamo, la quale... una pornostar, sicuramente. No, no, sì, una pornostar, sì, una pornostar. Sapevo che non ci sarebbe stato, perché pornostar... Alberto Quadriocurzio. Non possono pensare, Luca, non possono, non no, possono ma pensare. Ma mai che ti venga in mente di che so, di sentire... No. Fittussì, il grande professor Fittussì, ma che c'entra? Ad esempio. Ma cosa c'entra? Veramente... Anthony Giddens, straordinario. No, no. Allora, ti presento una signora che si chiama Sissi Neri, Sissi. Nome d'arte credo che sia. Signora Sissi Neri, buonasera signora Neri, buonasera. Buonasera, buonasera. Come andiamo? Piacere. Come andiamo? Bene, bene, bene. Io sono qui a casa mia, vicino al mio camino. Madonna. Sto facendo fra l'altro la diretta. Di sul che? Mio la diretta di che cosa? In diretta su Facebook. Pure sul in diretta mio profilo su Facebook. Allora, signora Sissi Neri, lei come dire, è a conoscenza del dibattito sulla legge elettorale? Lei fa la pornostar da quanto tempo, innanzitutto? Chiariamo questa cosa. Ma guardi, ho iniziato per caso, diciamo 3-4 anni fa. Ah, solo da 3-4? Come mai? Per soldi, cioè, per quattrini, no? Cioè, era... guardi, sì. Diciamo, no, diamoci del tu, dai, diamoci sì. Del tu, cara, sì, sì, possiamo andare del tu tranquillamente, diamoci del non tu, è un problema. Dai. Ho iniziato per caso sì. Nell'ambiente dello scambismo, perché io e il mio compagno siamo scambisti. Pure. Cioè, non è lo scambio, aspetta un attimo. Fare dei film, sì. Mi hanno chiesto di fare dei film attoriali, e da lì è partito tutto. Allora, non è lo scambio, certo, assolutamente. Lira euro. Non Marco è, esatto, euro. Non è lo scambio, euro. Non è no, Marco euro c'era una volta, cioè è il mondo dello scambismo. Mi spieghi un attimo, signora cara. Sì, sì. Cioè e lei tu... e sua moglie, lei e suo marito praticamente andavate in questi locali per scambisti e così. Cioè... Esatto, sì, sì. Anche sì, a casa, tanti. Anche a casa facevate scambismo, immagino, no? Sì, diciamo sì. Più che altro perché trovavamo questi locali che si chiamano Club Privé. Sì. Normale. Normale, insomma, scusi, mi faccio diciamo, capire. Sono delle associazioni dove sì. Si pratica scambismo. In libertà, diciamo. Quindi praticamente lei vedeva suo marito andare con altre donne e viceversa. Certo, assolutamente. E beh, certo. Cioè, beh, trombare con altre donne, cioè direttamente, sì. Eccetera. Sì, esatto. Normale, Parenzo, sì, Parenzo. Questo. Normale. Ma non ho capito qual è il punto. Se mi sembra normale, comunque vabbè. Ma è normalissimo. Se vi piace vedere la vostra amata, la vostra compagna, la lei vostra una moglie, cosa che consiglierebbe a tutti, signora Sissi? Guardi, ci sono tantissimi uomini a cui piace proprio vedere la propria donna che fa sesso con altri uomini. Ma lei lo consiglierebbe a tutti come coppia? Momento, come... Robert Cannuna si piace, è rifatto vivo, cioè, dalle il mio numero. Cioè, non è che sono perché siamo tutti uguali. No, ecco. Ma lei lo consiglierebbe a delle coppie, che ne so, a delle coppie in crisi, a delle coppie che magari non hanno più, come dire, non hanno più lo slancio sessuale, ma per esempio guardi, a Parenzo. No, per... sto benissimo, come, al contrario di quello che sembra, non è un rimedio per le crisi familiari no. Di coppia no, secondo no. Me bisogna essere molto molto solidi bisogna vabbè, anche avere questa riunione solida è vero, questa qua è così. Vera, ha ragione signora Sissi Neri da questo punto di vista, secondo me è così. Poi ovviamente è una questione che diciamo si il sesso viene visto come gioco, non c'è più la questione del possesso e beh certo diciamo, Parenzo è la normalità ecco. C'è no, la normalità perché? Allora io volevo vedere com'è istituzionale la signora Sissi no, Neri, molto istituzionale tra l'altro, è anche molto è anche molto grillina no signora ah, pure. Sì è grillina. Cioè, lei sì, ha votato, tu scusa, sì, hai votato per Grillo. Ho votato Movimento 5 Stelle. Sei, sì. Anche, sei anche militante, si può dire, Movimento 5 Stelle o no? Ma militante, diciamo no, io sono iscritta, ma è un po' che non partecipo neanche alle discussioni online. Ai meet porn, probabilmente. E andavo, poi insomma, da quando ho iniziato a fare questo lavoro, meno, non ho più diciamo. Potuto meno, seguire, diciamo. Perché beh, una lavoro delle cose brutte di questo lavoro è che spesso il fine settimana sei impegnata. Beh, certo problema. Certo problema. Beh, uno teoricamente potrebbe girare un film quando vuoi, no? Non no, puoi... infatti, no, ma io non giro solo film, io faccio adesso anche serate nei locali, ah, io ovviamente... sono impegnata anche la sera. Ecco, e il marito è contento. Il marito suo è contento. Suo marito, e mio compagno, sì, non siamo sposati. Mio compagno è felice. Come se fosse mio marito, è contento. Sì, molto contento. Bene, è una bella famiglia. Insomma, è felice. Avete figli anche? No, non si può essere contenti se uno fa scambismo, se uno vede la propria moglie che viene trombata da altri. Cosa fai stasera? Ma no, vado in un locale, ah, che bello, che fa, canta, balla, no, mi faccio ingroppare da un altro. Ma molto diffuso, ce ne sono un sacco di locali, per cui no, ma per carità, immaginavo una normale scena di una cena a colazione, o a colazione o a cena, siamo tutti insieme, stiamo mangiando magari un branzino al sale, e cioè dice, ah, cara, ciao, cosa fai? Ma dici, guarda, sì, mia moglie stasera va a un concerto. Ah, dici, che bello, canta. No, che fa? Balla? No, si fa ingroppare da un altro. Ah, perfetto, va bene. Mi passa un po' di vino bianco. Queste cose spesso non sono condivise in questa maniera. Ma cioè, uno va se l'ho fatto con la normalità con la quale voi... Sì, no, ma immagino una scena tra voi, tra amici, no? Lei inviterà qualche vicino di casa ogni tanto, dice, cara, ieri com'è andata? Ma beh, siete andati al cinema? No, no, sono andati in un locale, carino, un locale. Ah, perché la signora lavora in un locale? Sì, sai, mia moglie lavora in un locale. Ah, che bello, ma che cosa fa? Teatro, si esibisce? No, si esibisce sul palco, con chi? Con un altro, si fa montare da quattro persone. No, vabbè, mi passate un goccio di vino bianco, per cortesia? No, preferisco l'acqua gasata. Ma vi rende... che magari faceste un giro una sera, rendete conto cosa fa... ma vi rendete conto cosa fate passare? Ma va bene, è normale, no, è normalissimo. Non voglio chiudere niente. Io lei conosce il signor Adinolfi? Dice che vuole chiudere tutti i siti porno in Italia perché la pornografia porta, come dire, dannosa per i nostri bambini, eccetera, eccetera. Molto dannosa. Beh, lei praticamente è uno dei mostri che porterebbero, come dire, la nostra gioventù verso il disastro. Verso... Sì, vabbè, no, ma non credo che sia quello che porta la gioventù verso il disastro. Infatti, penso che ci siano tantissimi altri problemi, tra cui la disoccupazione giovanile, per esempio, che insomma è un problema molto più grave della pornografia. Ecco, lei che legge elettorale vorrebbe, signora Sissi Neri? Che legge elettorale? Io preferirei il proporzionale. Il proporzionale. Beh, è una cosa molto democratica, molto, capite? Sì. Tutti sono rappresentati, tutti, no? Tutti sono rappresentati. Lei uno vale uno, ovviamente. No, nel suo caso uno vale tre, perché mi pare... Sì, no, ma non è quello. Cioè, è proprio una questione di rappresentanza, anche se sappiamo che poi in realtà non è che la rappresentanza è sempre garantita al 100% da... Cioè, qualsiasi sistema elettorale ha delle tare, per cui ovviamente in qualche maniera, insomma, non è garantita proprio in toto la... Ecco, anche per lei, come per i grillini, i giornalisti sono dei serbi, cioè sono praticamente molto... Ma no, io non... Diciamo non è molto in Italia grillina. C'è un problema... No, io sono grillino, allora, innanzitutto non mi piace tanto la definizione grillina, perché io ho votato il Movimento 5 Stelle, lo seguo... Su tante cose sono d'accordo, magari su alcune non posso anche non essere d'accordo. Ecco, ma adesso però la pornostar, secondo me è un po'... Vabbè, ma la pornostar, più famosa in questo momento è all'Isola dei Famosi e si chiama Malena ed era nel Partito Democratico. Che ne pensa lei, la signora Malena? Ma io so che lei ha fatto, diciamo, ha esordito facendo propaganda per il sì al referendum. Sì, assolutamente. Per cui, ovviamente, poi pornostar ha fatto un film, non so. Mezzo film, qualche scena, cioè non è proprio una pornostar, dici tu. No? Ecco, diciamo, sì, la pornostar dovrebbe essere una... Ecco, qual è la specialità? Qual è la sua specialità, signora Sissi Neri? Qual è la sua specialità? Diciamo che non è che ci sono specialità, nel senso che quando fai un film, un girato, ovviamente... Ecco, ma qual è la sua specialità? Dipende dal tipo di girato che fa. Poi io faccio gangbang, che sono quello che si diceva prima, insomma, che con tanti uomini, ecco, mi diverto. Capito, David? Sì, signora, per carità. La benissimo. Specialità della signora Sissi Neri è la gangbang. Sì, ho preso bang. Anche un premio al Bergamo Sex a settembre del 2016 per questo film che ho fatto con 15 uomini. Capito? Con quante, signora, 15, scusi? 15, cioè, se stessa conversazione la sera, sì, no? La cena, conversazione certo, la sera. Sei lì tranquillamente, a cena, portano il solito branzino al sale, vino bianco, fresco, ottimo, sì, Gewurztraminer Traminer o altre marche che preferite. Sì. Si chiacchiera, quattro coppie, lei, suo marito e altri due. Dice, ah, salve, allora, ieri com'è andata? Ma dice, bene, sì, ieri sono stata a fare uno spettacolo. Ah, brava, che ha fatto Molière, Shakespeare? No, gangbang con 15 uomini. Purtroppo io non so recitare, altrimenti magari mi piacerebbe molto recitare Shakespeare, 15 persone, Molière, 15. Che ne so, cioè, insomma, no, purtroppo... No, però la bene signora Sissi, specialità gangbang. Vabbè, Sissi, ti saluto. Sì. Ciao. Ok, ciao. Buon lavoro, signora, buon lavoro. Però abbiamo capito che è per il proporzionale, sì, per il proporzionale. Beh, normale, sì, proporzionale. Cioè, gangbang significa proporzionale. Mamma mia. Comunque, ragazzi, sono attività economiche importanti anche per la, come dire, per l'imprenditoria italiana, Sì, per perché è sembra tutto radio economica del... Assolutamente. Luciana da Roma, dai, Luciana. Senti, Parenzo, mi rivolgo a te. particolarmente. La mia pornografia è che un certo sindaco che si chiama Giorgio Ormaggio fa apologia di fascismo. Ragazzi, ma chi se ne frega? E nessuna istituzione si merita di prenderlo a calci nel culo e buttarlo fuori. Brava signora, vedi tutti che siamo questi in tanti. Sindaci, questa gente che fa apologia di fascismo deve andare fuori dalle istituzioni. Brava. Perché se non succede questo, ci avremo sempre tutta sta melma dei fascisti. Brava. Che telefona sta radio. Brava. Che fa veramente la melma della società. Ma sono una minoranza, cara, perché siamo la parte migliore. Brava. Hanno una violenza dentro l'animo che non finisce mai. Brava. Lascia stare. Volevo solo dire questo. Grazie, veramente. Dell'apologia di fascismo. Tranquilla che siamo in tanti. Siamo in tanti a pensarla come te, come me. Vedrai, siamo la maggioranza. Non avere paura, perché ci siamo. No, io non ho paura. Ma infatti siamo qui a presidiare uno spazio di democrazia, di libertà. Siamo qui. Questa gente è perdente. Lo so. Va bene, grazie. Ciao, cara. Ti abbraccio forte, Luciana, e grazie per aver chiamato, cara. Grazie. Davide da Sondrio, dai, Davide. Chiudi la baracca, va. Vai, Davide. Allora, ciao ragazzi, volevo raccontare una vicenda che mi è capitata circa un annetto fa. Che è successo? Una ragazza che frequentavo... No, aspetta, c'era prima Antonio dalla provincia di Milano. Davide, ti chiamo domani, vai, ciao, abbassa il telefono. Antonio, dai, dimmi, Antonio. Pronto? Antonio, dimmi. Ciao Cruciani, ciao ragazzi. Dimmi, niente, io volevo vorrei citare un po' il discorso di quella persona che uccise l'altra persona, e mi dispiace moltissimo. Dimmi, allora. Siccome circa 13 anni fa io ho sposato una ragazza rumena laureata con tante... Quanti anni fa? 13 anni fa, che è successo? Sì, 13, esattamente nel 2004. L'hanno arrestata. Che lei era babysitter in una famiglia bene di Milano, così scrissero il signor Feltri e il signor Belchetto. Ma adesso è troppo lunga sta cosa, qual è il problema? Allora sintetizzo subito, a parte che adesso sono senza luce, senza metano, perché me l'hanno tagliato il sindaco di Pergamo. Che è successo? Non ho capito. Luciane, per cortesia, 13 anni che aspetto questa telefonata. Ma come allora, 13 anni? Che hai fatto? Domani, non ho capito. Chiamiamolo domani in apertura. No, non ho fatto nulla, ragazzi, è una cosa abbastanza seria, perché ho messo domani. Ti chiamiamo domani, amico mio. Domani è troppo tardi adesso, dai, su, è troppo tardi, Antonio. Domani il tuo grande racconto. Il tuo grande racconto in apertura, dai, alle 18:32. Ma chi ti ha detto? Scusa, no, decidiamo così, in apertura, alle 18, anzi anche prima, alle 18. Non c'è sì, vedrai che ci sarà da Barisoli. A domani, ciao. Quando è che chiudete, cornuti? Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7:30, alle 8. Ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Siamo ad alti livelli qua, Radio 24. Libera la voglia di fare.